passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Le zanzare di casa mia mi adorano. Cosa è successo questa mattina al Tribunale di Milano? A un certo punto Berlusconi pare abbia stretto la mano a uno dei PM più catalogati come nemici, no, Parenzo? Si tratta di De Pasquale, no? Gli ha stretto la mano, però poco prima di entrare in tribunale, in diretta con Maurizio Belpietro, pronunciava queste frasi sul comunismo c'è e usa la magistratura. Direttore, purtroppo il comunismo in Italia non si è mai reso e non è mai cambiato. C'è ancora chi usa il codice penale come uno strumento di lotta ideologica e pensa che la parte politicizzata della magistratura possa usare qualsiasi mezzo per annientare l'avversario che è vittorioso nelle elezioni e che è forte nel consenso popolare. Poi giura di nuovo su figli e nipoti. Tutti questi processi, questi 6 processi che mancano, sono veramente assurdi, sono tutti costruiti sul nulla. Io ho più volte, e lo faccio ancora stamattina, giurato pubblicamente sui miei figli e sui miei 5 figli e sui miei 6 nipoti che nessuno dei fatti su cui la Procura di Milano ha costruito le sue accuse è vero. Però basta con questi giuramenti, uno può credere anche alla persecuzione giudiziaria, io come sapete in parte ci credo, però insomma questi giuramenti sui figli a che servono? No? I giuramenti su figli, addirittura adesso nipoti oltre ai figli. Per forza, passa il tempo e quindi... L'uomo più imputato dell'universo e della storia. Io sono l'uomo più imputato dell'universo e della storia, perché sono state 2564 le udienze contro di me e contro il mio gruppo. Quella di stamattina ci risulta essere la 2500. Bene, cosa c'è oggi? Questa incredibile storia del governo che ha combinato un pasticcio sui soldi da dare ai profughi, perché io non capisco com'è possibile. Ci si mette d'accordo prima di parlare. Il ministro Frattini, nello scorso fine settimana, ha avanzato la proposta di dare dei soldi, 1.500 euro, 2.500 dollari, non ricordo bene la cifra esatta, forse 1.700 euro facendo la traduzione dei dollari, e da dare a ogni immigrato per tornare indietro. Ora, non è che si può parlare e non avere l'accordo delle altre persone che formano la maggioranza. Infatti subito Bossi, come sapete, abbiamo un baluardo, Tremonti che i soldi erano i moli, quindi penso che i soldi non vanno a casa con i 1.500, vanno a casa su una nave che li porta a casa e basta. E questo è, poi c'è stato anche Tremonti che ha bocciato questa proposta, eccetera, eccetera. Ora io dico, il ministro degli esteri, prima di parlare, caro Parenzo, ma non dovrebbe un po', no, mettersi d'accordo? Ma questa è la proposta ufficiale del governo su questa vicenda, no? Beh, non è la prima volta che, diciamo, un ministro fa una cosa, poi arriva subito dopo la smentita. Esiste un luogo che si chiama Consiglio dei Ministri. Oppure il telefono. Oppure, sì, il più comodo telefono, Skype, i messaggini, quanti ce ne mandiamo io e te? Perché non si mettono d'accordo? Perché non si vedono d'accordo? No, però io questa idea di pagare i clandestini, dargli il bonus per tornare. Beh, io è una calamita pazzesca per venire in Italia. Sono d'accordo con la Lega in questo, mi dispiace purtroppo. Ma guarda che lo dice anche la sinistra. Signora Mussolini, buonasera. Sì, buonasera. Lei con chi è d'accordo? Con Frattini o con Bossi su questo? No, io non sono per non dare un euro. Manco mezzo euro, ma anch'io, ma scusi, se no vengono a frotte. No, ma quello diventa un incentivo, cioè una cosa talmente evidente. Beh, inevitabile che sia così. così. Beh, non capisco com'è che il ministro degli esteri Frattini, senza sentire nessuno evidentemente, fa questa proposta. Si mettessero d'accordo prima o sbaglio, oppure sono troppo critico? Ma io credo che questo intervento militare, al quale io ho dato voto negativo, l'unica del PDL Lega, l'unica voglio ricordare, è, diciamo, ha creato delle tensioni indubbie, delle confusioni tra le varie nazioni, immaginiamoci all'interno di un governo, quindi questa è una conseguenza di tutto. È normale, siccome sono confusi in tutta Europa su che fare, anche se adesso sembra abbiano trovato, forse, perché la guerra, quando la inizi, poi non sai come finisce, in che modo evolve. Figuriamoci se all'interno del governo poi uno si mette d'accordo. Certo, sarebbe più facile, forse Frattini chiama Bossi e dice: se faccio questa proposta, sei d'accordo o no? Infatti, molto semplice. Molto semplice, sarebbe in teoria, sempre in teoria, però non lo so perché ci si complicano le cose. Sigla su Bocchino, un suo amico, signora Mussolini, perché come sa, nel fine settimana è successo qualcosa, c'è stata una novità sulla vicenda Bocchino-Carfagna. Sigla nostra su Bocchino. Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Eh beh, caro Parenzo, cosa è successo? Dopo l'intervista della signora Bocchino, che è una nota imprenditrice televisiva, Gabriella Bontempo, napoletana come Bocchino, che in un'intervista a Vanity Fair, come sai, ha detto che sapeva già tutto di questa relazione, che non si sa bene se sia finita o no, ma noi non ci addentriamo su questo terreno con la signora Carfagna. Italo Bocchino ieri ha chiesto scusa alla moglie, però devo dirti una cosa: prima di chiedere scusa alla moglie per quello che avrebbe fatto, insomma, per il dolore che le avrebbe arrecato, se l'è presa con Berlusconi. Tu dimmi cosa c'entra Berlusconi, PDL, la macchina del fango, la cosiddetta macchina del fango, col fatto che Bocchino forse ha tradito la moglie. Cosa c'entra? Eppure, alla prima domanda di Fazio su questo argomento, Bocchino parte così, senti. Quando noi siamo andati ad uno scontro così coraggioso contro una macchina da guerra dal punto di vista dei mezzi a disposizione di Berlusconi e del berlusconismo, sapevamo che sarebbe stato un periodo molto duro e che saremmo stati duramente contrastati ed attaccati. Sinceramente io non mi aspettavo che si arrivasse addirittura a far leva sugli affetti, cioè ad entrare su rapporti affettivi per cercare di crearmi problemi. Quindi questo ovviamente l'ho sofferto molto. Allora, la macchina del fango, cioè Berlusconi ha creato problemi a Bocchino su questa vicenda. Ora dimmi, c'entra qualcosa o no? Parenzo, sì, dammi una tua risposta. Sono molto sincero e domando anche all'onorevole Mussolini: se Bocchino and Company non avesse fatto quello che ha fatto, cioè l'affronta al governo e poi sfilati dalla maggioranza, i giornali vicini al centrodestra avrebbero tirato fuori la vicenda d'amore e di letto dell'onorevole Bocchino? No, domanda, punto di domanda. No, scusatemi, la vicenda non l'ha tirata fuori il giornale, la vicenda è stata messa sui giornali da un'intervista a Vanity Fair della moglie di Bocchino. Eh beh, ufficialmente sì, ufficialmente sì. E allora che c'entra Berlusconi? È la moglie che ha detto basta, metto in piazza tutto e così ha fatto, e poi queste sono le conseguenze. Ma non è in c'entra, diciamo che erano... Berlusconi, c'entra una relazione che c'era, che la moglie ha tollerato, sopportato, forse sofferto fino a un certo punto, poi ha detto basta. Io trovo legittimo, poi si può dire, criticare, non criticare, ma questi sono fatti privati, personali. Voglio ricordare che la foto che feci io era una foto politica, cioè per stare a dire che quella in Parlamento, no? In cui Bocchino era contro Berlusconi, loro ancora tricavano politicamente. Vabbè, però lei abbiamo scoperto tutto quello che c'era. Però lei sapeva tutto, diciamo la verità. No. Beh, insomma, la voce circolava in Parlamento, la stessa moglie di Bocchino lo dice, no? In Parlamento, ma ne circolano talmente tanti, no, che il Parlamento è con un piccolo paese, si sa tutto di tutti, o si inventano situazioni così. Ma io credo che la cosa è stata resa proprio ufficiale, tant'è che lui si è dovuto scusare per chiedere il perdono, non so, dalla moglie. Ma lei avrebbe accettato, lei accetterebbe il perdono da uno che fa un'intervista così da Fazio? Ma il perdono, cioè la moglie, quello dipende dai rapporti. Se ci sono figli, il matrimonio va sempre salvato. Questo è quello che penso io, a meno che non ci siano violenze, attenzione. Ma quando ci sono situazioni di tradimenti sommari, sì, presunti e tali, se ci sono dei figli, il matrimonio per me andrebbe sempre salvato. Senta, ma perché le cose vanno a finire? Cioè, perché secondo lei la moglie di Bocchino, la signora Bontempo, sceglie di fare un'intervista su Vanity Fair e lui di replicare? Ma non si possono parlare in privato? Ma perché delle volte secondo me non riesci più a parlare in privato, forse i rapporti non erano più tali, o forse si ha bisogno, visto che lei pensava di essere sulla bocca di tutti, forse lo era, per il fatto che ormai la situazione era finita, di renderlo evidente e diciamo passare da una parte in questa commedia, se vogliamo, tragedia familiare di vittima a quella che attacca. Beh, certo, quando poi le donne anche tradite, la voglia di dire: ma che pensi, che io sia scema e che non so niente, adesso ti faccio vedere io. Ti do una bella bastonata. Gliene ha dette di tutti i colori. Senta, ma è vero o no che però di questa vicenda ormai ne parlavano? Perché poi alla fine le interviste sono comprensibili anche sotto questo aspetto. Cioè, ormai la storia era talmente di dominio pubblico. Adesso c'è un'altra persona che dovrebbe chiedere scusa. E chi dovrebbe chiedere scusa? La Castagna, alla moglie. Lei dice? Certo. Mica è perché si tradisce in due, mica è unilaterale. No, però, certo, magari questo nessuno ci pensa. Però perché, scusi un attimo, siamo così. Perché la Carfagna, che colpe ha? Non ha. No, lei dice non è che avere una relazione con un uomo sposato con figli? Non lo sapeva, gli occhioni? No, se non lo sapeva, gli occhioni non vede, come lei non vuole, gli occhioni, come lei chiama la Carfagna, gli occhioni dovrebbe chiedere scusa. Ma come si fa a dire di no a quegli occhioni, Mussolini? Su, e mi dispiace, come si fa a dire di no a quegli occhioni? Come si fa a dire di no a quegli occhioni da cerbiatta? Come si fa? È difficile, diciamo la verità, è difficile. Come si fa, cari? Non è facile, non è semplice. Si prende e si dice, si affronta la situazione. No, dico, come si fa a dire di no a quegli occhioni, poi alla fine? Bocchino dove comunque lei dice il matrimonio, eccetera. Ma perché non c'era? Era single lui? No, voglio dire... Ho capito, ma uomini siamo, Mussolini, uomini siamo. La par condicio sì, è che si tradisce in due, non è che tradisce solo l'uomo. Non c'è dubbio. L'uomo è anche lei, perché lei non lo sapeva? Vabbè, ma ho capito, non è un reato avere una relazione. Però, visto la situazione in questo modo, io credo che un ministro delle pari opportunità che parla dell'infanzia, che parla di cose, si mette in una situazione certamente non semplice, sapendolo. Quindi dovrebbe chiedere anche lei scusa. Questo è interessante, cioè siccome manca ministro un altro attore nella commedia che è lei, Ais. Occhioni dovrebbe dire che lei chiedo scusa per aver rovinato il matrimonio, o no? Per aver rovinato la famiglia e i figli, dunque brava, ministro della pari opportunità, eccetera, eccetera. Certo, della famiglia, certo. No, della famiglia pure. Brava, sì, la vedo diversamente. No, perché quelle giovanate. Quelle giovanate, appunto. Vabbè, comunque, come ministro, lei dice, come ministro... No, il ministro non c'entra niente, che c'entra il ministro? No, come donna. Come donna, cioè, come ormai donna. La cosa è evidente, plateale, non è che... Però siccome c'è di mezzo un bambino, lei dice? I figli, comunque, ci sono di mezzo i figli? Sì. Due penso figlie? Di sì, penso di sì. Non è che può far finta di niente. Non può far finta di niente. Certo. Traffico, torniamo subito per parlare di un'altra donna. L'onorevole Mussolini ha un sacco di nemici, anche di amici naturalmente, però ogni tanto, perché parla, poi alla fine dice quello che pensa. Quando uno dice quello che pensa, certo, non è che ha solo amici, non c'è dubbio. Traffico. Che cos'è l'amore? La ramona che entra in campo. È come una vaiassa, colpo grosso, te la muove, te la squassa. Vabbè, qui le abbiamo giocato un brutto tiro, signora Mussolini, perché... Capirà, è meglio vaiassa che altro. E vabbè, questo l'ha già detto però lei. Una volta alla... Lo ripeto. Alla signora Carfagna, però la questione è che lei se l'è presa dopo un colloquio, intervista con Klaus Davi, con quella signorina molto bella, che si chiama, anche lei molto bella, che si chiama Bianca Balti, che è una modella, per alcune frasi pubblicate su Vanity Fair, sempre Vanity Fair, qualche giorno fa, non su quest'ultimo numero, su quello precedente. La signora Bianca Balti, per chi non lo sapesse, è una bella modella, che è la protagonista della nuova campagna della Team, e ha detto a un certo punto in questa intervista: tutti ci prendono in giro per Berlusconi, ma tutti restano convinti che l'Italia sia il più bel paese al mondo. Quando sul set scoprono da dove vengo, sono entusiasti, non vediamo noi stessi come furbetti approfittatori, all'estero ci giudicano simpatici e solari. Nei primi anni mi arrabbiavo, rispondevo: senti chi parla, voi avete Bush. Adesso cerco di ragionare e di spiegare che l'Italia non è tutta Berlusconi. Lei addirittura vorrebbe, insomma, ha fatto una specie di proposta alla compagnia telefonica. Aridateci Belen. Aridateci Belen, che pure non è italiana, meglio Belen di un'italiana. Addirittura. Belen 100.000 volte, a parte che lo spot è girato malissimo, fatemelo dire. Lei una volta ride, una volta è seria, e non è protagonista, sono protagonisti gli altri due, quindi se la tolgono non si vede. Questo è un giudizio artistico, però sono d'accordo anch'io, era meglio l'altro spot, ma comunque questo è un altro discorso. Questo è più carino. E poi lei si è arrabbiata molto per queste frasi anti-Berlusconi. Ma perché non c'entravano niente? Perché tu dovresti essere contenta di fare questo spot, che ci massacreranno con quest'altro spot della team dalla mattina alla sera. Goditi questo momento di popolarità e stai zitta. Fai, cioè, una modella non può dare. Finisce forse se ne riesce, basta. Senza. Ma perché una modella non può? Contro. Che dici Parenzo? No, non capisco questa durezza dell'onorevole Mussolini, per cui una modella, un'attrice, un attore non possono esprimere giudizi sul premier, sul paese. Cioè, lo esprimono tutti i giudizi sul premier, però dato che si fa uno spot della team che dovrebbe essere nazional popolare, non puoi diventare immediatamente di parte, se no io lo vedo e lo spengo. Ma perché di parte? Appena vedi lei? Capelloni, lo vedo e lo spengo. Come lei può dire di Berlusconi che non lo sopporta, che si sente, oddio, l'ansia e il tabù? Io, dato che è uno spot che alla fine paghiamo sempre tutti noi, alla fine gira. No, come alla fine gira? Lo spot. Fai uno spot nazional popolare, taci. Vabbè, lo spot, non è che la team sia la sola compagnia telefonica. No, vabbè, ma lo faranno 2000 volte al giorno, poi rappresenta. Ma siamo mica nel fascismo, Se vuole fare così, siamo mica nel fascismo dove ci sono ma quelli del regime. Ma c'entra, però anch'io posso dire la mia, o devo dire lei parla contro Berlusconi che non c'entrava niente in questo momento, fallo. Io dico no, non mi piace, non mi sta cioè, bene. Cioè, la Mussolini dice, siccome... non è che non posso parlare. No, dico, siccome no, lo spot è fatto male, prima di tutto. Vabbè, lo spot questo è girato male, tecnicamente. Dunque, avvertenza. Secondo, ai signori della team. Belen. Sì. Terzo, sì. Taccia. Terzo, taccia. No, taccia. Ho sintetizzato bene. No, però taccia, signora va Mussolini. Va bene, taccia, è una battuta. Sì. Fallo dopo che hai fatto questo spot, ma no, ma riesce ad avere successo. Lei dice, credo. È talmente però popolare questo dopo. Spot, è talmente popolare che la team dovrebbe scegliere meglio i suoi testimonial. Dice, non può scegliere un testimonial che parla male di Berlusconi, cioè del capo del governo. Questo vuole dire lei. Ma no, non è opportuno. Poi ognuno può fare quello che vuole. Poi non lei troverà i fan che diranno hai fatto bene, sei stata brava, altri che dicono se c'è lei dentro questo spot non mi piace di vederlo, non compro più. Ma deciderà la team, c'è una politica, è una polemica talmente assurda che un politico intervenga su un testimonio di una campagna di un'azienda privata. Mi hanno chiesto un commento, visto che ormai si commenta, uno può pure commentare. Ma lei si rifiuti di commentare tutto? Ma non mi rifiuto, perché se ci sono delle cose che secondo me non vanno fatte, questa intervista lei addirittura uno sconcio, una cosa così, però intanto fai la cosa della team. Ma i politici non devono essere un chiarificio continuo. Cioè, le posso dire una cosa, che a me quando un artista o un cantante, una modella all'interno di un'intervista sull'Universo Mondo parla anche di Berlusconi, anche a me dà un po' fastidio, perché c'è sempre questo politicamente corretto di dire Berlusconi all'estero, quando vado mi vergogno, è una cosa insopportabile, anche noiosa, però all'interno di quell'intervista, se lei non ne avesse parlato, nessuno se ne sarebbe accorto. Lo so, ma me l'hanno chiesto, in effetti non mi piaceva neanche lo spot. E tra le altre cose hanno pompato questa cosa come fosse chissà che, non è invece proprio niente, secondo me non è fatto bene, al di là di tutto. Sì, e poi l'è scappata e questa poi, cosa qui. E poi io dico, al di là di fai questa cosa, goditela, prenditi il successo che poi ci sarà, non ci sarà, vediamo, e poi uno può farlo dopo. Stai facendo una cosa importante e ti metti a dire, capito? Importante. Io propongo la Mussolini come prossima testimonial della team, è una donna bella. Lei lo farebbe? Lo farebbe uno spot per la team, signora Mussolini? Ma io ho detto, Belen era da team. No, ma lo farebbe lei o no? Lo farebbe? Io? Ma io sono di parte. Beh sì, questo è vero, insomma, sarebbe una contraddizione rispetto a quello che ha detto prima. Senta, le faccio ascoltare una Ma io faccio politica, non faccio gli spot della team, scusi. Vabbè, però per la team... Magari un domani, insomma. No, un domani sarebbe, avrebbe sempre un passato. Sì. Ma Bocchino... Ma perché non parliamo della radioattività del Giappone? Come? Che è successo? Che è successo? Io sono contro il nucleare. Come contro il nucleare? Sono contro il nucleare già da Chernobyl, sono preoccupatissima. Ma lei non ha detto niente fino adesso, il governo... Il governo... Ma adesso non ho detto niente, vedete quei referendum, io voto contro. Cioè lei vota sì ai referendum? Vota sì. Adesso, in diretta, uno scoop. Vota sì ai referendum? Io voto, certamente, contro il nucleare, tutta la vita, sì, come perché Bersani. È incontrollabile. Adesso voglio sapere, hanno lasciato la centrale e se ne sono andati, giustamente, perché hanno preso 10 milioni di radioattività rispetto al normale. Io sono stravolta. È distrutta da questa cosa? Sì, pensa, queste sono sciocchezze, noi parliamo queste. No, beh, certo, non c'è dubbio il che sono sciocchezze. Il problema è questo, se ne deve parlare. Ma lei l'ha detto a Berlusconi quando introdusse il nucleare, reintrodusse il nucleare. Come gli ho detto, come dissi di no e votai no all'accordo con la Libia. Adesso ho votato contro la guerra e poi voterò a favore del referendum contro il nucleare. Contro il nucleare. Che meraviglia. Ma io dico che c'è problema, già glielo ho detto. No, no, per carità. Qualcuno pensa che sia addirittura un castigo di Dio, gente del CNR, che era tra l'altro un uomo di fini, un certo signore, un ricercatore del CNR, anzi il vicepresidente del CNR. Vabbè, sì. Insomma, abbiamo scoperto che Alessandra Mussolini è contro il nucleare, voterà sì, magari farà pure campagna lei, no? Ma io farò voto e farò votare. Vota e farò votare certo, ma lo credo bene. Per cui scusi, la moratoria di un anno lei non c'è, altro ma che moratoria di un anno di fronte a questa tragedia. Basta. È Veronesi, scusi. Veronesi? Eh? Veronesi che ancora... Veronesi. Ma anche Veronesi ha detto di aspettare, ma di fronte a una situazione incontrollabile dove nessuno bloccare tutto, anche bloccare. I giapponesi che sono i migliori al mondo, sì. Voi vi immaginate la costruzione delle centrali nucleari in Italia? Se fanno fatto giornale serio, radio ci mettono la sabbia dentro per qualche soldo per intascarsi. Io non giornale mi radio mai. Grazie, giornale radio. Siamo qui di nuovo in diretta, 19:17, questa è la Zanzara, il numero di telefono per chiamarci, fra poco raccoglieremo, inizieremo a raccogliere anche le vostre telefonate, 800 24 00 24. David Parenzo in collegamento da Assago in Milano, nei dintorni di Milano. Bene. E dunque non qua fisicamente in studio, ma va bene lo stesso, il quale lancerà fra poco uno dei nostri telegiornali preferiti, anzi forse il telegiornale preferito, soprattutto quando è condotto dalla signora Bianca Berlinguer. Digitec. La rivolta di Lampedusa, sfiorati 6.000 migranti, abitanti e pescatori bloccano gli accessi al molo. Maroni annuncia l'arrivo di 6 navi. Mercoledì consiglio dei ministri straordinario, Bersani non sanno che cosa fare. Il cardinal Bagnasco, il problema è europeo. Berlusconi in aula al processo Media Trade, poi saluta i fan dal Predellino, tutto bene, tornerò, udienza aggiornata al 4 aprile. Napolitano all'ONU, legittimo l'intervento in Libia, non potevamo restare a guardare e sostenere chi lotta per i diritti e la democrazia. I ribelli avanzano verso Sirte, il feuro di Gheddafi, Londra e Parigi, via il dialogo con Raïs, dialogo per la nuova Libia. Fuori controllo la centrale giapponese, tracce di plutonio nell'area dell'impianto, la contaminazione per un raggio di 40 km. Par condicio nei talk show, la maggioranza prepara una nuova direttiva, l'opposizione protesta, vogliono chiuderli come un anno fa. Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa en blanco, mañana yo soy estanco, como come una muccia. Eccoci al caso Forum, caro Parenzo. Sì, il caso sì, Forum, sì. Trasmissione di Mediaset, come sapete, molto conosciuta, condotta Rita dalla Chiesa, accuse addirittura di aver costruito tutta una situazione per dire che Berlusconi ha fatto delle cose grandiose dopo il terremoto dell'Aquila. Sì, devo dire che le cose dette da questa signora, che poi ha chiesto scusa, che ha detto di aver preso solo un gettone, delle frasi spontanee. Insomma, certamente si può pensare male. Frasi spontanee col gettone, vabbè. Sì. Si può pensare male, non c'è dubbio. Dice che gli è venuto a un certo punto spontaneo. Signora di Popoli, signora abruzzese di Popoli. Ma ricostruiamo tutto. La signora Marina Villa e il caso Forum. La notte è stata una cosa incredibile, sembrava la fine del mondo, non riuscivo a capire se era la guerra, se era la fine del mondo, la casa si girava, cadevano tutti i lampadari, si sono staccati persino i termosifoni dal muro. Non possiamo stare lì a aspettare, anzi, chi ci ha aiutato, io vorrei ringraziare, oddio, non lo so se posso, Presidente. Va bene, il governo, certo. Il governo, perché non ci ha fatto mancare niente, nessuno sta a mezzo alla strada, tutti hanno le case, con i giardini, con i garaggi, con la gente che lavora, quindi io voglio, le attività stanno riaprendo e voglio riaprire anche la mia. Vabbè, insomma, dobbiamo dire che è tutto finto, questo sia chiaro, è tutto finto, cioè questa è una figurante che interpretava la parte di una terremotata aquilana e commerciante di abiti da sposa, tutto falso, e in separazione dal marito anche questo tutto falso. E, oltre a questo ruolo, insomma, si è espressa come si è espressa, abbiamo sentito, no? Ha fatto il punto sulla ricostruzione addirittura. No, ma infatti il tema politico alla base di tutto questo è uno solo. Politico, cioè, addirittura, domanda... tema politico. Sì, assolutamente, certo, il tema politico alla base di tutto è... In termini di consenso, di opinione pubblica, spostano di più questi contenitori del pomeriggio o il TG di Minzolini? Beh, io credo che possano potenzialmente spostare emotivamente di più l'opinione pubblica questi contenitori del pomeriggio che non il TG di Minzolini. Ma questo è un boomerang però, questo alla fine politico. Si è rivelato un boomerang. Perché è stato scoperto il giocattolo. È talmente plateale che non si può non scoprire una cosa di questo tipo. Cioè, se se qualcuno ha architettato una cosa di questo tipo per fare propaganda al Premier, è un cretino. O sbaglio, cioè è un emerito cretino. Amico mio, i cretini al mondo esistono, ne ho qua uno vicino che se vuoi te lo passo. E chi è? Dire. Chi è? Scusa. Non vuole far nomi, ma voglio dire, il mondo è pieno di cretini, tu quanti cretini conosci tu? Sì, ne conosco tanti, però insomma, adesso voglio dire, architettare una cosa di questo tipo, farsi scoprire, insomma, è da licenziamento in tronco se qualcuno l'ha organizzato appartenente alla famosa struttura Delta. No, ma non esiste nessuna struttura Delta. Esistono persone più realiste del re, esistono dei contesti. Cioè, tu dici che scelgono una persona e poi la istruiscono in modo che così facciamo un favore pure a Berlusconi. La istruiscono, la istruiscono, altrimenti è spontaneo e c'è ragione questa qua, che è tutto spontaneo e vabbè, è un incidente di percorso. Cioè, o c'è la struttura Delta che ha organizzato una cosa del genere. No, la struttura Delta non oppure anche delle vie di mezzo. Oppure è un errore, un caso. Non esiste la struttura Delta, ma indubbiamente quei contenitori là sono più utili a spostare, condizionare il consenso, piuttosto che i media, diciamo i telegiornali tra quelli che danno notizie, no? Vabbè, questo è il punto. La seconda guardi, parte. Beccalossi ride. Perché ridi, Beccalossi? Perché ridi? Ma cosa vuoi spaccare? Ma gioca a calcio! Scusami. Marina Villa. Sono arrivati subito gli interventi, ringraziamo il Signore. Dovete ringraziare anche, secondo me, adesso mi attirerò le ire di tutti, anche Bertolaso, perché ha fatto un grandissimo lavoro Bertolaso. Ecco, quello volevo pure dire dopo appunto. Inizialmente hanno messo le tendopoli, si sa che, però subito dopo le case, hanno ricondegnato le case col giardino, col garage. Vabbè, adesso io sentendolo e rivedendolo, poi mi pare difficile che... Cioè, addirittura Rita dalla Chiesa, per carità, grande stima, quello che vogliamo, eccetera, oggi si dice indignata per le critiche. Insomma, sembra un po' d'accordo con la signora. Beccalossi, dov'è là? Digli di fare un pronostico al volo sul derby di sabato, su. Aspetta che non aggiungo, mi hai dato fuori a fuoco. Vabbè, intanto mandiamo un altro audio della signora Marina Villa. però non ma scusami, acquisti forse signora. Ma si vive con le case e col giardino. Sono rimasti 300-400, stanno ancora dentro gli hotel perché non vogliono, allora. I fa pure comodo, cioè allora, lei dice pure stanno comodo. Meglio nell'hotel e quindi non li vogliono lasciare, non credo signora, uno mangio, vorrebbe non tornare bevono, nella propria casa però. Stato, mangiano, bevono e non pagano niente, pure io ci vorrei andare. Quando la zanzarina. Vabbè, poi vediamo le scuse in cui dice ho preso solo un gettone, frasi spontanee. Ma l'hanno pagata per dire queste cose o solo, no, non mi ha pagato i gettoni, diciamo, di partecipazione che danno a tutti per il viaggio, per andare a Roma eccetera eccetera. Assolutissimamente nessuno mi ha pagato e nessuno mi ha costretto o mi ha detto di dire queste frasi. Mi sono uscite così a me ingenuamente, pensavo che non si scatenava una cosa del genere, assolutissimamente. Va bene, forum come macchina del fango, una parte della macchina del fango. No. 800 24 00 24, l'hai beccato Beccalossi, no? È qui vicino a me che fuma Beccalossi. Signor Beccalossi, quanto finisce il derby sabato? Mi sia sincero. Mi sia sincero, signor Beccalossi, quanto finisce il derby sabato? Giuseppe, caro Beck, tranquillo, ma queste zanzare. Come finisce il derby sabato, Beck? 2-1 per l'Inter. Vabbè, ma ho capito. Ma io speravo che tu mi facessi un pronostico un po' più non di parte, non di pancia, invece via. Allora, ti dico subito, allora cambio perché tanto in questi giorni non mi ricordo ho parlato con un sacco di gente. Allora, lascio il derby al Milan e io vinco il campionato. Ti va bene così? No, a me va bene tutto quello che dici innanzitutto. Esatto. 2-1 per l'Inter. 2-1 per l'Inter, va bene. Resta allora, agli atti. Tieni buona la prima. Resta agli atti e poi ci sentiamo okay. Sabato sera. Un abbraccio. Ciao. 800 24 00 24. C'è qualcuno nel CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, caro Parenzo, il vicepresidente si chiama De Mattei, che pensa che i terremoti siano delle catastrofi naturalmente, ma siano anche un'esigenza della giustizia di Dio. So che questa cosa ti farà imbestialire da vecchio laicone che sei. Vecchio no, laicone sicuro. Laicone, ateo, senti, via. D'accordo con Ruggero. Nessuno può dire con certezza se il terremoto di Messina ieri o quello del Giappone oggi sia stato un castigo di Dio. Sicuramente è stata una catastrofe. Per quale fine Messina e Reggio sono state distrutte? Chi potrebbe dirlo? È possibile fare delle congetture, non è possibile affermare alcuna cosa con certezza. Intanto per noi, al nostro scopo, basta la sicurezza che le catastrofi possono essere e talora sono esigenza della giustizia di Dio. Il vicepresidente del CNR. Però in questo caso parla come cattolico, come studioso, non come vicepresidente del CNR. Qualcuno chiede le dimissioni, questo francamente mi sembra esagerato. Beh, adesso mi sembra veramente la cosa. Se si deve mettere il vicepresidente del CNR, cosa dovrebbe fare? Voglio dire. Tra l'altro citava un libro, un monsignore, eccetera. C'è un altro caso, prima di passare agli ascoltatori, piuttosto curioso. Il candidato sindaco del Partito Democratico, dunque un uomo potenzialmente vincitore a Bologna, si chiama Merola. Ah, come no? Certo. È di Bologna però, ma si chiama Merola, molto conosciuto in città, consigliere comunale, eccetera, eccetera. Ha fatto una gaffe clamorosa in una radio bolognese dicendo che, sempre a proposito di calcio, che il Bologna speriamo che torni in Serie A. In realtà è già in Serie A da anni il Bologna. Dunque, confermando che insomma di calcio mastica poco, ma di questo niente male. Volevamo avere oggi l'audio, no, di questa uscita. Punto Radio si chiama l'emittente. Beh, questo audio sarebbe stato cancellato, distrutto. No. Sì, cancellato, distrutto per volontà precisa dell'editore, del proprietario della radio, che peraltro è anche il proprietario della televisione dove lavora Parenzo, che è Sette Gold, ma Parenzo non ne sa nulla. Ah, clamoroso conflitto di interesse. Ha fatto benissimo. Luigi Ferretti, come ha fatto benissimo? Complimenti all'editore, bravissimo. Luigi Ferretti pare, secondo quello che sentiremo fra poco, pare aver già disturbato il collegamento. Pronto? Ha distrutto l'audio di Merola, cioè non esiste più la gaffa di Merola. Ma non si sente, non c'è più collegamento. Abbiamo fatto una telefonata. Non si sente più niente, appunto. Radio di Bologna. Senti qua, è rotto. Non siamo più in possesso della registrazione, no? Ho già spiegato tutto perché ce l'hanno fatta cancellare, perché non vogliono che vengano divulgate qua. Ma chi? La proprietà è? È Ferretti. E Ferretti è la media, 7 gol. Sostiene la candidatura di Merola? No, è perché siccome qua a Bologna è successo un putiferio, allora questo, quello che mi hanno detto è questo, se ti chiedono non c'è più. Ma ora dico io, ma se uno ha in mano un mezzo scoop, una cosa che ha fatto discutere, tu la distruggi? Poi se bisogna sempre verificare. Mi chiamate Cruciani che non si sente più qui in diretta? Vabbè, ma non puoi parlare male del tuo editore, Luigi Ferretti, di 7 gol. Segreteria, scusami, Fontana, non sento il collegamento con Cruciani, me lo puoi chiamare? Fra poco gli ascoltatori, Borsa. Quando la zanzarita tormenta la mia noce. Abbiamo rispolverato Arbore questa sera, 800 24 00 24, il collegamento da Assago, David Parenzo qui da Milano, sì. Giuseppe Cruciani, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Carlo da Pesaro, bisogna sottolineare che è Centro Nazionale delle Ricerche, innanzitutto vicepresidente De Mattei, quello che ha detto De Mattia, anzi, o De Mattei, fatemi controllare, De Mattei, Roberto De Mattei, creazionista, che ha citato il Monsignor Mazzella nel terremoto di Messina, utilizzava parole di Mazzella, naturalmente facendole sue, i terremoti, le catastrofi come una sorta di punizione divina. Questo è il contenuto delle parole del professore del CNR. Carlo da Pesaro, nominato da Fini, perché era consulente di Fini, tra l'altro, nominato da Fini, insomma, con l'appoggio di Fini. Sì. Carlo. Sì, pronto. Cioè le sciocchezze, cioè anche gente qualificata le dice. Questo signore è un, ha le sue teorie sulle catastrofi. Non è una teoria, questa è una sciocchezza, una baggianata spaventosa. Come quella della Mussolini di prima, che diceva che Tim la paghiamo tutti, no? In realtà Ferrara paghiamo tutti, e paghiamo la Mussolini e paghiamo tutti gli avvocati di Berlusconi, i quali, sì, a stare in Parlamento stanno a fare il servizietto a Sua Maestà Betty. Quindi voglio dire, Sua Maestà, scusi, non ho capito bene l'ultima cosa, Sua Maestà? Sua Maestà Betty, nelle intercettazioni viene fuori questo nome. Anche questo nome, scusi, io però le intercettazioni qualche volta non le leggo tutte. No, d'accordo, non le leggo neanche io, devo dire la verità. Però non, questa non cosa le è rimasta però impressa in modo particolare. Sono talmente curiose a volte che, certo, vanno a sparare, ma mica ho detto che lei fa male. No, però quello che è preoccupante è che una parlamentare fa certi ragionamenti come se una ragazza che fa pubblicità, che cioè fa un lavoro anche onesto, se non passa da Arcore non possa avere delle idee. Ma vi rendete conto di dove siamo arrivati? Nel ventennio non si usavano questi schemi. Ma adesso non tiriamo in ballo il ventennio, Carlo. Non è il caso, ha anche una sua, richiama, dai. Certo, il nome sicuramente, però il ventennio ha anche una sua nobiltà, se vogliamo, adesso anche una sua, no? Suo peso storico. Io ho rispetto qualche grossa perplessità sul ventennio, le nobiltà del ventennio. No, ma voglio dire nobiltà storica, sto dicendo, no? Non sto dicendo che il ventennio è qualcosa di nobile, sto dicendo un che un brutto periodo che purtroppo è. Sì, ma è un periodo storico che ha anche una sua grandezza, se vogliamo, no? Non sono molto d'accordo. No, ma non sto facendo l'elogio del ventennio. Dal punto di vista come l'abbiamo vissuto io, la mia famiglia, via dicendo, insomma. Perché dopo, sì, Carlo, magari certamente il ventennio è stato un periodo terrificante per la libertà dell'Italia, eccetera, eccetera. Dopodiché, non possiamo paragonare, se facciamo il paragone tra quello che ha detto la Mussolini su questa modella Bianca Balti e il ventennio, francamente. No, è chiaro, questa era solo una battuta, perché le sciocchezze vanno prese come tali, insomma, no? Io sono contento e passerò a Tim, veramente, adesso sto usando Wind, passerò a Tim perché finalmente una ragazza con le idee sue che non si lascia. Vabbè, adesso non è che Bianca Balti ha idee sue solamente perché ha parlato male di Berlusconi, abbia pazienza, no, signor Carlo. Però dice delle sue idee, cioè fregandosene un pochettino di quello che è la moda, no? Perché veramente, secondo me è il contrario. Comunque, insomma, secondo lei invece, è controcorrente, che per me è perfettamente nella vague, nella corrente, nel mainstream, nel politicamente ipercorretto, non corretto, cioè non siamo nella banalità più totale, ma va bene, per carità, non voglio impedire nulla. E come ha detto prima Parenzo, forse, ma se ne è resa conto anche lei, forse è sbagliato rispondere a queste domande, a queste sollecitazioni. Non, cioè, ha senso, non ha. Chi se ne frega di quello che dice Bianca Balti in un'intervista a Vanity Fair? Ma veramente chi se ne frega proprio? La ringrazio, signor Carlo, grazie. Fernando da Ascoli Piceno, da quelle parti, Pesaro, Ascoli Piceno, sì, per carità, magari sì, gli ascolani e i pesaresi si arrabbieranno, ma Io la prima cosa che voglio dire, buonasera a tutti, buonasera. La prima cosa che voglio dire è che il pesarese proprio si vede che appartiene alla Repubblica di Romagna, che continuano a votare, a stare a sinistra come sono stati sempre, nessuno gli rompe le scatole. Io ricordo Stefanini, che era una persona di sinistra, corretta, educata, eccezionale. E invece quel signor di Pesaro, David, di prima, che cos'è? Lasci perdere, non ne voglio parlare. Io volevo dire solo una cosa. Mi dica. Volevo dire che io ascolto Radio 24 da quando c'era Sant'Almasi, mi ricordo il diario di una vacca, mi ricordo delle robe stupende, mi mette tristezza. E sto cosa le mette tristezza? Glielo dico immediatamente. Lo dica. I discorsi della Mussolini, i discorsi di Bocchino. Se a me Bocchino mi attraversasse la strada fuori dalle strisce, io scorderei di frenare, molto probabilmente sarebbe la tristezza viene a me, allora, Fernando, per quello che dice lei metterebbe sotto Bocchino, non lo so. Ascolto e poi mi fa pure la morale perché chiamiamo la Mussolini. Questa tristezza qui, io ho questa sensazione. Qual è la sua sensazione? Perché è la sensazione perché non se ne può più di questo gossip della castagna, non me ne frega. Sì, Fernando, ma lei può avere anche ragione, ma non sono stato io a tirare fuori la vicenda. Sono due signori conosciuti. Ma ci inzuppate il pane. Certo che ci inzuppiamo il pane, che dobbiamo fare? Siamo qui a posto più. Se la radio è questo gossip, non rappresento nessuno, non rappresento. Fernando, niente. Guardi che forse non ha capito bene. Lei dimentica che questa trasmissione è una trasmissione che è lunga 2 ore e 30, una trasmissione molto lunga in cui c'è di tutto. C'è il gossip sulla Mussolini, che poi non è gossip, perché, ripeto, quando una vicenda che interessa due personaggi pubblici. Insomma, se ne parla anche da Fazio, che è una trasmissione seriosa. Se ne occupa Rai 3. Di cosa parliamo? Non so come seguirla. Io non su ne questo. Posso più di quelli che dicono, non ne posso più. Non si può andare avanti così. Sai quelli che iniziano, signor Cruciani, me lo faccia dire. Non si può andare avanti così. E poi sanno tutto della vicenda di gossip. Non ne posso più. Sanno tutto. Di quelli che dicono, non ne posso più. Ecco. E andiamo da Alessandro e da Fabio. Grazie Fernando, comunque. Continua a seguirci. Fabio, dica. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Dica pure, signor Fabio. Buonasera, guardi, io volevo semplicemente dire che oggi, guardando il telegiornale, ho visto appunto ciò che è successo fuori dal Tribunale di Milano. Non so, probabilmente io avrò un'impressione sbagliata, ma la sensazione è che un paese che si trova con una guerra a 100 chilometri, con enormi problemi da affrontare, veda il Presidente del Consiglio, per reati che risalgono a tempi precedenti, se non sbaglio al 94 o intorno al 94, è costretto a perdere del tempo in un'aula di giustizia, quando, voglio dire, si sarebbe potuto benissimo fare il processo fra 2 anni. Finito il mandato. Beh, Fabio, ora, questo è un altro discorso. La norma non è passata, è stata bocciata, punto e basta. Insomma, adesso è inutile che lei dica: sì, è vero, Berlusconi poteva essere processato tra 2 anni alla fine del mandato. Sono d'accordo anch'io, però la norma è stata proposta, magari è stata proposta pure male, è stata bocciata, punto. Adesso è inutile. Lei rimpiange quello che non è stato. No, io quello che voglio dire semplicemente è che i danni che ha il paese adesso dimostrano la miopia di quelle decisioni. Comunque Fabio, non mi pare che Berlusconi l'abbia presa come una perdita di tempo, anzi è andato prima a Canale 5 la mattina a parlare da Maurizio Belpietro, dopo si è messo sul predellino davanti al tribunale e mi sembra che l'abbia interpretato come uno show personale questa vicenda qui. Eccolo qua sul predellino nelle immagini di Sky, sentiamo. Fra i due che stavolta, a differenza del lungo periodo trascorso al Milan, non avevano nulla da festeggiare. Va bene, grazie. Tino da Pescara, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica pure. Buonasera signor Parenzo. Dica Tino. Niente. Sì, mi dia un attimo il tempo. Io Cruciani volevo il tempo. Lei, dirle, lei stava zitto. Volevo innanzitutto dirle che praticamente il vicepresidente non è del CNR, come lo intende lei, ma è della Catechesi Nazionale Rivoluzionaria, un nuovo movimento che confluirà presto come si chiamano quelli di Scilipoti, in pratica nei responsabili, sì, dei responsabili, esatto. Questa è la prima cosa. Poi volevo dire, per quanto riguarda certi suoi ospiti, in particolare la Mussolini, che io tra l'altro sono elettore di centrodestra, quindi sì. Lo dico perché non che comunque il cognome lo porta proprio come si deve, perché lei continua a dire che ci sono delle persone che non si devono esprimere, come è il caso appunto di questa modella, che non mi sembra che abbia fatto nulla di male parlando, dice, non è che lei, se noi vorremmo far passare l'idea che questa modella abbia fatto tutto questo per uno scopo, che è quello poi di criticare Berlusconi come tutti gli altri, facciamo altro che fare sempre la legge del paradosso. Noi ci abbiamo dei problemi seri, giustamente come dice Parenzo, è inutile dire sempre tanto speriamo che Cruciani qualcosa mi faccia dire, le cose vanno male e basta, non è così. Lo sa Tino che io non ho capito assolutamente nulla. Deve essere civica. Cioè, Tino, non ho capito niente di quello che sta dicendo lei, non si capisce niente, non si capisce niente di quello che Parenzo, hai capito qualcosa? Non mi sente? No, francamente ho capito, solo Parenzo ha ragione e questo mi basta, diciamo, quindi non vado oltre. No, non è che non si sente, si sente benissimo, Tino, è che proprio non era chiaro. Ho capito solo Parenzo ha ragione, questo dovrebbe bastare ai tuoi radioascoltatori. Sì, questo potrebbe anche bastare, non a me. Parenzo mi deve dei soldi, visto che ho fatto lo spot, ho capito. Ecco. Va bene, Tino. A parte questo, no, volevo solo concludere. Ma non è che ha concluso, non c'è manco l'inizio, se non c'è l'inizio è difficile che ci sia la conclusione. Comunque, No, l'inizio c'è, perché in pratica lei da un po' di tempo che praticamente sta annullando la critica. Io sto annullando la critica? Sì, perché lei praticamente continua a mandare interviste o a cacciare argomenti o far ripetere, risentire delle registrazioni inutili, sì. E non fa parlare la gente. Va bene, non d'accordo. Fa parlare la gente. Va bene. Perché mano a mano si sta restringendo forse, la gente ha. Forse in questo caso la faccio parlare anche troppo. 19:45 800 24 00 24 andiamo dove? In provincia di Cremona, mentre siamo in attesa. Eccolo qui, caro Parenzo, che ospite che ti ho portato stasera. Che hai combinato? Un ospite importante. Chi c'è con te? Chi c'è? Un ospite importante, un nuovo ministro. Beh, ce n'è solo uno, non è difficile, cerca di indovinare. Un nuovo ministro? Sì, un nuovo ministro, fatto da qualche giorno. La segui la politica o non la segui? Ah beh, per forza, è il Saverio Romano. Signor Romano, buonasera. Un nuovo ministro fatto l'altro giorno significa cotto e mangiato. Cotto e mangiato, un po' azzoppato secondo alcuni. Se lei si sente azzoppato oppure no? Ma guardi, io ho passato tanti di quei deserti, li ho attraversati senza un goccio d'acqua, che figuriamoci. No, dunque no? Non si sente azzoppato, ma non è che l'ho detto io, l'ha detto un suo collega dei responsabili che si chiama Pionati, Francesco Pionati. Ma fortunatamente nel nostro paese c'è ancora libertà di opinione e di espressione, ognuno dica ciò che pensa. Però diciamo la verità, Parenzo, non lo diceva contro Romano, sì naturalmente, perché c'è una rivalità, poi adesso la scandaglieremo, lo diceva contro Napolitano. Lo diceva contro rivalità. Si figuri che io Pionati l'ho eletto nel 2006 perché ero segretario regionale dell'UDC allora e lo candidammo al Senato e fu eletto in Sicilia. Lei lo candidò? Quindi si immagini se possa esserci rivalità, no? Vabbè, sai, signor Romano, poi le cose cambiano, come lei sa, in politica molto rapidamente cambiano, per cui... No, è una persona alla quale voglio bene, un ottimo giornalista, un buon politico. Un buon politico, ma lei è un vecchio democratico, vecchio, no, è giovanissimo in realtà, ma insomma giovanissimo, però... Ha appena compiuto 46 anni, diciamo. Che... Appunto, no, insomma, però, quindi lei dice che è meglio che Pionati torna a fare il giornalista, praticamente, deve tornare a fare il giornalista. Non ho detto questo. Tutt'altro, ho detto che è un ottimo giornalista, un buon politico. Però perché se l'è presa con lei, ha sentito quel fuori onda d'Exit un po' cattivello? L'ha spiegato, una battuta, insomma. Si parla dei difetti, quando si parla dei difetti di ognuno di noi e si immagina che anche gli altri l'abbiano, soltanto questo. Ha una risposta per tutto, caro Parenzo. Signor Romano, quando lo freghi? Mai lo freghi, non lo puoi fregare mai con le domande, perché è difficile, democristiano. Impossibile. Da quanti anni è lei che è democristiano, signor Romano? Cioè, la prima tessera della DC, quanti anni l'ha presa? Ho 46 anni, sono stato democristiano a 52, diciamo. Come anni? Nel senso che ho preso la tessera della Democrazia Cristiana sin da quando mi sono affacciato alla politica. La prima tessera quando l'ha presa? A 17 anni, a 16? Avrò avuto 18 anni, 19 anni. Ma com'è che una a 19 anni, no, perché è curiosa questa cosa qua, la prima cosa che fa, tessera della Democrazia Cristiana. Io lo spiego subito, io facevo parte dei gruppi studenteschi all'università, c'era il gruppo del Movimento Giovanile della DC, e ho aderito a quel gruppo, ma lei tenga conto di una cosa, che io scelsi la DC allora che era considerato un partito vecchio, obsoleto. Tanti oggi invece la rimpiangono. Dunque lei vuole dire anche detrattori, anche coloro i quali furono avversari della Democrazia Cristiana oggi rimpiangono quel partito. Vabbè, insomma, nel paese vuol dire che magari a 19 anni ci avevo visto giusto. Lei dice che a 19 anni era più avanti di tanti altri. Poi non è che tutti rimpiangono adesso la Democrazia. Io ho preso la metropolitana oggi a Milano. Io ho visto l'intervista di D'Alema che ha rivendicato il suo passato comunista. Della sua Sull'unità, politica. Sull'unità, un'intervista all'unità, L'ha letto, no? Sì, e come no? Alla fine ha detto meno male che comunque non ho vinto. No. Grazie anche alla presenza della DC, dice lei. No, noi, lei dice io ho scelto quelli che alla fine. Ma del resto allora c'era la DC ed era la DC che batteva il PC. E vabbè usciamo. Per la DC, forse la storia del nostro paese sarebbe stata diversa. Certamente non migliore. Certamente non migliore. Vogliamo uscire dalla storia, Parenzo? Che dici? Dalla storia, dalla DC. Usciamo dalla TV in bianco e nero. Usciamo dalla TV in bianco e nero, che però alcuni rimpiangono. Vediamoci una bella partita Milan-Inter come quella del 2 aprile. Quello sì, ma perché lei mi è milanista oppure interista, signor Romano? Io tifo per il Palermo. Lei tifa per il Palermo. Devo dire che ho sempre avuto la simpatia per il Milan da bambino. Allora non come fede, fortuna di avere presidente Zamparini, quindi militava nelle serie inferiori. Sì. A quel punto che bisognava avere una squadra del cuore che avesse quantomeno, come dire, un blasone. E dunque il Milan. Allora tenevo per il Milan. Non è che mi è diventato milanista come Fede, che prima era juventino e poi per la vicinanza a Berlusconi, no? Assolutamente no. È successo al contrario. Quando il Palermo è diventato una squadra, come dire, che si poteva vedere, a parte che è sempre stata la squadra del cuore, ci siamo abbandonati nelle braccia del Palermo, punto. Capito, stiamo parlando con il ministro dell'agricoltura, neo ministro dell'agricoltura, capito. Saverio Romano, che la cui linea mi sembra sia caduta. Esponente del partito, di un partito che si chiama PID, partito PIL. No, PID, PID. Il PUC, no, il PID, no, PIN non è il PID, quello è quello del cellulare. Il PID è il partito dell'Italia di domani. Ricordi bene la sigla, com'è PID? Adesso fra poco gliela diciamo. Palermo, Imola, Domodossola. Esatto, PID. PID. Popolari per l'Italia di domani. Popolari per l'Italia di domani? Sì, signor Romano, è corretta la cosa. PID, Popolari per l'Italia di domani. Italia domani. Siccome ci possiamo confondere col PIN, sai il PIN, quello del cellulare? No, le spiego anche perché. Noi abbiamo costituito qualche mese fa un'associazione, Italia domani, e poi quando abbiamo deciso di dare vita a un soggetto politico ci siamo ritrovati nel percorso del Partito Popolare Europeo. Noi ci siamo chiamati Partito dei Popolari d'Italia domani. Anche qui Berlusconi ci ha messo lo zampino in questo nome del PID, no? No, Berlusconi, sai, è un creativo. C'era bisogno, però, è un creativo. Nuovo. Il più grande dei creativi, se per questo. C'era bisogno di un partito nuovo, eh? Vabbè, ma. No, ma infatti la nostra è una barchetta. Noi vogliamo arrivare ad un approdo più ampio e pensiamo che quello che oggi è un aggregato culturale che già esiste in Europa come soggetto politico, nel futuro possa esserlo anche nel nostro paese. Senta, ma perché i responsabili hanno 4-5 cose? Non si capisce niente, se no bisognerebbe mettere un po' di... No, iniziativa responsabile invece è un gruppo parlamentare. No, lo so, io adesso questa distinzione che nasce finalmente appunto dalla composizione dei diversi soggetti politici che si sono trovati nella linea del sostegno alla maggioranza per evitare una crisi al buio, per evitare le elezioni e adesso male. Per rilanciare la legislatura. Ecco, no, questo qua alla fine ci è chiaro, però di fronte all'opinione pubblica il fatto che ci sia iniziativa responsabile, poi all'interno 4-5 sigle, non è un tantinello confuso? Ma perché iniziativa responsabile non è ancora un soggetto politico? No. Certo, vale a fare capire. È la somma di soggetti politici che stanno facendo un ragionamento insieme. Ma diciamo che è la somma di un po' di persone, ecco, diciamo solo questo, va? Non si tratta della somma di persone, noi rappresentiamo come Popolare Italia Domani in Italia in questo momento anche 10 deputati regionali, oltre a essere 6 parlamentari, averne uno in Europa, abbiamo tanti sindaci, quindi un pezzo di classe dirigente del nostro paese. C'è anche uno in Europa, chi c'è in Europa che andiamo? Sud che hanno la loro dimensione, che aderisce, così come altri movimenti. Io tenderei ministro, a non fare l'errore che ho fatto qui in Europa con la Lega. Sa cosa successe con la che Lega? Che è successo? No? Che su- no, che è inizialmente successo? La derisero, poi la combatterono, alla fine la Lega vinse. Anche i responsabili vinceranno alla fine, le dici? No, io sto facendo un ragionamento diverso. Nel nostro paese c'è uno spazio politico che la gente sta guardando con attenzione, e soprattutto quando questo spazio viene occupato da soggetti che parlano chiaramente facendo gli interessi del paese prima che i proprio quelli del proprio partito. Lei però chiaramente... E i vecchi arnesi della politica che stanno ancora là, diciamo a giocare contro Berlusconi, questo lo capiranno quando arriveremo alla lezione. Però signor Romano, adesso Parenzo le ricorda che anche lei tuonava contro Berlusconi fino a qualche mese fa, Parenzo, per esempio, prendi qualche frase dal sito web. Ha detto più volte non sono interessato alle offerte di Berlusconi, e qua vabbè, poi addirittura lo prende in giro sul paragone che Berlusconi fece su De Gasperi, no? Vi ricorderete, Berlusconi dice io sono come De Gasperi, e il nostro ministro oggi Romano all'epoca disse, ma era il 2009, è infatti nota la sobrietà di Berlusconi, il suo rispetto per le istituzioni dello Stato e per l'opposizione, ma di Berlusconi, dice Romano, ammiriamo anche il suo elogio del pluralismo dell'informazione, era ironico all'epoca, i toni pacati ed equilibrati dei suoi discorsi politici. Aspetti un attimo, signor Romano, un attimo, Parenzo. Il suo interesse per lo sviluppo del Mezzogiorno, la lungimiranza della sua politica estera fatta essenzialmente di pacche sulle spalle a Putin, che dà e Bush, annota sarcastico l'ex ministro Romano. Signor Romano, allora, lei mi era molto anti-berlusconiano fino a qualche mese fa, come la mettiamo? Allora, due cose da dire. Prima, le mie critiche a Berlusconi e al suo governo nel passato, come ha avuto modo di apprezzare, sono sempre critiche nel merito delle questioni. Beh, ho capito, deriva plebiscitaria. Noi abbiamo votato per il governo Berlusconi quando ancora non si sapeva se questo avesse realmente una maggioranza oppure no. No, ho capito, però se lei parlava di deriva autoritaria e plebiscitaria. Il governo del ribaltone. Sì. Berlusconi è venuto in aula a settembre facendo un appello alle opposizioni responsabili e chiedendo di poter realizzare in 5 punti programmatici il percorso che ho capito, signor Romano, questo lo sappiamo. Quindi, ma se le mie critiche sono fatte salve dentro quel contesto. Ma come sono fatte salve? Lei parlava di deriva autoritaria e plebiscitaria. Berlusconi fa una proposta al Parlamento. Poiché soltanto i cretini non cambiano idea, lei ha cambiato idea. Io ho accettato un ragionamento fatto con Berlusconi e dopo tutto questo percorso ci ritroviamo qua. Dunque, ma lei ha anche detto... No, questo è interessante, cioè il ministro Romano dice io effettivamente quelle cose le pensavo, cioè la deriva autoritaria, plebiscitaria, eccetera eccetera. E che le leggi di Berlusconi favoriscono il riciclaggio di Stato? Era, no, questo non l'ho mai detto. Era contro lo scudo fiscale? Ero contro lo scudo fiscale, così come era fatto, nel senso che chiedevo... Lei ha parlato di un colpo di spugna mascherato. Che favorisce il riciclaggio di Stato, è un virgolettato. Chiedevo di far pagare di più a coloro i quali avevano portato i quattrini. Beh, insomma, lei ha detto tutte queste cose, adesso non le pensa più, ci ha ripensato su tutto. No, io ho detto un'altra cosa, che dal 29 settembre abbiamo iniziato insieme al presidente Berlusconi un altro percorso. No, ma ho capito, questo è chiaro. Lui si è impegnato con gli italiani e noi ci siamo impegnati con lui. Dunque lei ha cambiato idea, rispetto a quelle cose lì, o no? Io le ho fatto un ragionamento, mi sembra molto serio e poco, che difficilmente può essere semplificato col fatto che ho cambiato idea. No, ma lei l'ha detto, solo i cretini non cambiano idea, lei me l'ha detto. Premesso che solo i cretini non cambiano idea, il mio ragionamento è stato questo. Allora, abbiamo la pubblicità, torniamo subito, non se ne vada perché dobbiamo chiarire alcune cose. 800 24 00 24, il neo ministro dell'agricoltura Saverio Romano, la zanzara tra pochissima anche su una notizia che è arrivata adesso, slitta al 14 aprile la decisione del GIP, lei lo saprà, ministro Romano, appunto su una vicenda giudiziaria che la riguarda e che ha investito anche la presidenza della Repubblica. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24. Ti ha convinto la replica del signor Romano sul suo antiberlusconismo prima di settembre dello scorso anno, caro Parenzo? Lo so, dimmi una cosa. No, lo so, a te ti ha convinto? Ma no, ma che cosa devi convincere? Cioè, esatto, cioè non è c'è da convincere, da prendere atto, non è che uno deve. C'è da prendere atto, sì, c'è da prendere atto di un cambiamento. In no, nome di cosa? In nome di cosa? Cambiamento intervenuto nel nome della governabilità, un paese che ha bisogno di responsabilità, non si può andare alle urne in un momento drammatico come questo, ci siamo assunti la responsabilità di salvare un paese, la manovra finanziaria, mia nonna in cariola e gli santi in paradiso. E via. E che te devo dire? E vabbè, che vuoi fare? Come lotta, Romano, come lotta. Lotta, però. Comunque, lotta. Gino dall'Aquila! Gino dall'Aquila, buonasera. Fra poco ci ricolleghiamo con Romano, che latita adesso al telefono. Latita, beh, latita. Sai, quando uno è messo un po' alle strette, poi latita. Però combatte in realtà Romano, dunque dovrebbe ripresentarsi qui alla Zanzara. Dovrebbe rispondere di nuovo. Di solito è un combattente, un lotta come un leone. Democristiano da 18 anni c'ha paura di noi della Zanzara. Ma non scherziamo. Attenzione, no? È clamoroso! Cosa? Notizia clamorosa sulla Carfagna, che ha replicato Carfagna, due punti su di me solo chiacchiere. Su di me solo chiacchiere, sì. È clamoroso. Carfagna, due punti su di me solo chiacchiere. Sì, dove l'hai vista questa cosa? L'ho vista... Questo è pazzesco. Sì, vabbè. Fonti mi segnalano questo, le mie fonti. Sì, no, sì, veramente sì. Sono tutti i siti, però non importa. Gino dall'Aquila, Gino. Pronto, sa, buonasera. Dica. Allora, io volevo intervenire sulla trasmissione di Forum. Sì. Quello che è stato detto dalla signora. Sì. Allora, è su YouTube la non smentita secondo Dagospia. Sì, io praticamente ho sentito prima un pezzettino della trasmissione, ho sentito quello che diceva. Sì. Allora, i garage non esistono, prima cosa. Nel progetto case non sono previste. No, poi, scusi, perché entra nel merito delle cose che ha detto quella signora? No, entro proprio nel merito. Poi cosa perché entriamo nel merito di una cosa su cui non c'è bisogno perché, di entrare nel merito? Gino, qui non stiamo facendo il punto sul terremoto. Non stiamo facendo il punto sul terremoto. È scandaloso che a 2 anni di distanza ancora si giochi su sta cosa. Ancora? Ancora si giochi sulla pelle di noi aquilani, che siamo 70.000 e bene non stiamo, insomma. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Questo potrebbe essere un argomento di discussione, diciamo, perché viene scelta una persona del genere per parlare del terremoto all'Aquila, perché si sceglie il terremoto all'Aquila come argomento, però insomma là si voleva evidenziare un contenzioso che c'era. Le volevo evidenziare come oggi la situazione. Ma vabbè, mi dica com'è la situazione che lei vede. Le categorie di case, no? A, B, C, D, E. Sì, allora... Le case E, che sono quelle più danneggiate, sì. Ancora non parte la ricostruzione. Sì, ma questo è arcinoto, che non parte. E, che non parte... Casa mia e io non so se casa è da buttare a terra oppure no, sono passati 2 anni. Sì, ma insomma, rispetto alla vicenda di Forum, lei l'ha sentita come un'offesa? Certo, mi sento presa in giro. Perché? Perché la signora non è aquilana, parla di cose che non sa, entro anche nel merito, perché quello che dice è completamente sbagliato. Sì, c'è un'immagine differente alle persone che guardano Forum, soprattutto di una certa età, di 60 anni, che hanno un'immagine completamente diversa rispetto alla realtà. Questo è il problema. Va bene Gino, la ringrazio. Bisogna anche dire che è tutta una messa in scena, Gino, deve essere chiaro sin dall'inizio che è tutta una messa in scena. Certo, in una messa in scena si potevano evitare quelle frasi su Berlusconi. La signora dice che erano spontanee, vedremo. Francesco da Latina, buonasera. Buonasera a tutti. Io notavo, guardando la cartina dell'Europa e non solo, vi è una costellazione di siti nucleari un po' in tutta Europa, in tutto il mondo. Poi c'è una bella parte vuota, senza siti nucleari, che è appunto l'Italia. Questo qui, allora io non sono contro il nucleare, però secondo me è vendibile questo particolare, ossia è un valore aggiunto per il turismo, per chi vuole. Ma cosa, scusi? Il fatto che in Italia non ci sono siti nucleari. Non mi sembra che fino adesso questa cosa qua sia stata, come dire, sia stato un cavallo di battaglia. Non è che la Francia o altri paesi che hanno l'energia nucleare soffrono dal punto di vista turistico per una ragione del genere. Secondo me non è mai stato utilizzato questo fatto, non è mai stato. Ma ho capito, non è mai stato pubblicizzato, ma evidentemente perché la gente che va in Francia o in Slovenia o in un altro paese, o dei tanti paesi europei che hanno il nucleare, non gliene frega assolutamente nulla del fatto che questi paesi hanno energia nucleare, continuano ad andare in vacanza in quei paesi. Sì, dunque, sì, che sì, bisogno questo... c'è di dire che l'Italia è denuclearizzata? No, Ma secondo me in questo momento potrebbe essere interessante per qualcuno tutto qui. Vabbè, grazie. La 7, titoli. Offensiva diplomatica anglo-francese in Libia. Gheddafi deve andarsene e subito, il potere passi nelle mani degli insorti, dicono Sarkozy e Cameron. Tra poco, videoconferenza dei due con Obama e Merkel alla vigilia del vertice europeo. Manca l'Italia, ovviamente. E sul campo sembra arrivata l'ora della resa dei conti, scontro decisivo per la città di Sirte, la natale di Gheddafi. Gli insorti annunciano di averla quasi conquistata, gli ahilisti smentiscono, li abbiamo fermati alle porte della città, dalle forze NATO nuovi raid aerei pro-insorti. L'ondata di migranti è solo all'inizio, ma a Lampedusa la situazione è fuori controllo, rivolta agli abitanti, blocco del porto, voci su presunte epidemie, smentite, non è proprio possibile. Pronto il piano di svuotamento che comincerà mercoledì e sempre quel giorno riunione straordinaria del governo. Dopo 8 anni Berlusconi torna in un'aula di tribunale a Milano per il processo Media Trade, si trattiene 2 ore, stringe la mano al PM De Pasquale, poi lo show in strada dove trova ad attenderlo sostenitori e contestatori. Sull'udienza dice è andato tutto bene, torno lunedì. Il nostro sondaggio, praticamente la Lega sale, stabile il PDL, guadagnano il PD, l'UDC e anche Rutelli. A cedere terreno, Italia dei Valori, Sinistra, Ecologia e Libertà. E fini. Ultima puntata, speriamo, della storia dei Bocchini e della Carfagna, anche questa consegnata ai media. Il ministro interviene sul suo blog per invocare il proprio diritto al silenzio. Di queste cose devo parlare solo con la persona che sposerò presto. PDL e Lega chiedono regole da applicare ai talk show in vista delle tribune politiche per le amministrative, tempi predefiniti e cronometrati. E scoppia la polemica su Forum, il programma dove una donna racconta della paura per il terremoto e la ricostruzione all'Aquila, elogiando il governo, ma si tratta di una comparsa che recita la parte. Lo sai che Saverio Romano si è dato? Cioè? Non risponde, più, non risponde al telefono. Perché? Non lo so. No, ministro, risponda. Signor Romano, su. È la zanzara, su. Informazione gratuita. Un democristiano senti, come lei. Senti, non senti. È abilitato al tipo di chiamata richiesta. Ah, e non è abilitato, capito? Vabbè, cambiamo telefono, su. Quante ne ha, scusa? Non lo so. Bene, Francesca da Milano. Buonasera, a proposito di questo, intanto le faccio i complimenti per averlo definito signor Romano e non onorevole Romano, nonostante ma sia guardi stato che lo posso chiamare anche onorevole, non me ne frega no, niente. Lo so, era una battuta, Cruciani. No, volevo dire che però io sono abbastanza sconvolta, nel senso che questo ha detto che questo nuovo PID è un nuovo soggetto culturale, non so, allora no, io... veramente soggetto politico, culturale non mi pare. No, io ho detto culturale, ne assicuro, cioè, infatti sì, quando ho sentito culturale. Questa roba mi è venuto un colpo, ho detto vabbè, allora io come se avessi 10 lauree. E non so se questo signore fa pari con quello dell'altra sera, un certo Grassano che manco sapeva che Damasco è la come si dice capitale sempre della responsabili Siria. Sempre di perfetto, responsabili sempre si tratta. Responsabili se questi sono ho un'ossessione sento... ho un'ossessione per i responsabili ecco anch'io ce l'ho perché sono molto preoccupata vabbè no io no però lei no beh, mi diverto io abbastanza perché dico se questo è il nostro livello poi questo onorevole Romano diceva che loro come dire hanno fatto questo gruppo perché in questo modo svecchiamo la politica eccetera, ma mi sembra che il modo sia veramente un vecchio modo di far politica, quello io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra e se non me la dai ti faccio come dire ti tengo sotto ricatto, insomma mi sembra la vecchissima politica e oltretutto voglio dire si diceva che in questo modo con la si sarebbero diminuito il numero dei partiti eccetera, adesso partiamo con i gruppi che poi diventano partiti eccetera eccetera, insomma se questo è il nuovo Francesca la ringrazio, devo dire però quando si parla di ricatto Parenzo io sono sì. Piuttosto scettico perché la politica è fatta anche di queste cose, di trattative, di pelo sullo stomaco, di cinismo e tutto certo. quando Mastella insieme a Cossiga crearono le condizioni per il governo D'Alema nel 98. L'Udeur. L'Udeur, no, che all'epoca non era l'Udeur, la sigla non era Udeur. Ma insomma, no, sì, Unione, non mi ricordo. Lì c'era, come lo chiamiamo quello? Cioè il governo D'Alema era comunque, se vogliamo, sotto ricatto da parte di D'Alè, di Mastella, di Cossiga, eccetera. Poi c'è il ricatto, non ricatto. C'è dubbio. Per cui non è questione di ricatto, non è che i responsabili tengono sotto ricatto Berlusconi, è che fanno pesare il fatto di essere decisivi. Cioè fanno politica, poi sarà politica cattiva, politica buona, non lo so. Ma il ricatto non esiste in questo caso. Ma io ricordo che all'epoca fu nominato vice ministro sottosegretario Romano Misserville. Come no, certo. Poi però per poche ore. Credo, Per poche ore poi lo fecero dimettere, ma allora anche quello effettivamente poteva essere un, aperte virgolette, ricatto politico, nel senso che Misserville era quanto di più lontano dal PDS, ex di Movimento D'Alema, Sociale, no? Certo. Era del MIS, infatti si dimise per quello, quindi hai ragione, vanno dette con più disincanto queste cose. Sì, certo, sotto ricatto dei responsabili, allora anche D'Alema era sotto ricatto di Cossiga e di anche la DC era sotto ricatto dei liberali o dei piccoli partiti del pentapartito, no? Sì, certo è che se le maggioranze nascono e muoiono in Parlamento, sì, questa è la riflessione, e visto che Berlusconi invece è il campione del basta col teatrino della politica, la vecchia politica, chiarezza sul mandato elettorale, chiarezza sulle alleanze, beh, devo dire che questa chiarezza non c'è stata, perché la maggioranza non è più quella che è uscita dalle urne, c'è un nuovo governo che si chiama Berlusconi bis, tecnicamente. O Berlusconi Scilipoti, come dice. O Berlusconi Scilipoti, tutti diranno no, non è un Berlusconi bis perché non si è dimesso e non ha richiesto la fiducia. Nei fatti è un Berlusconi bis, c'è una nuova maggioranza, ci sono nuovi ministri, ha fatto un rimpasto, quindi è un nuovo Berlusconi con una nuova maggioranza. Pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, andiamo a Roma. Michele, buonasera. Sì, pronto. Dica. Buonasera. No, volevo fare una piccola osservazione sul vicepresidente del CNR, insomma, che ha affermato che insomma certi catastrofi sono, diciamo, una punizione divina. Sì. Insomma, io dico, c'è da veramente da farsi accapponare la pelle davanti a certe dichiarazioni. E diciamo che non voglio dare un parere sul vostro operato, però anche farle o non farle passare certe cose, secondo me. Ma scusi, che cosa dovremmo fare? Non mandarle in onda? No. Questo signore parlava a Radio Maria? Qual è il problema? Non ho capito. Non mi pare, non abbiamo mandato in onda il mostro di Marcinel. No, cioè, non abbiamo mandato in onda. Lei ogni volta che uno dice una cosa che non è. Non è che ho detto che avete mandato il mostro di Marcinel, ma dire certe cose può essere anche peggio del mostro di Marcinel. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Insomma, è una teoria piuttosto bizzarra, secondo me, ma di cui questa persona evidentemente è convinto, perché è un creazionista, eccetera, che le catastrofi siano volute da Dio. Insomma, va bene, d'accordo, è criticabilissimo, quello che vogliamo. Ma non mi pare di essere. Non è il momento raggiungibile. Ah, questo qua è il numero di Romano, caro Parenzo. Grazie. Niente. Gentile, però. Aspetto, ha chiuso il telefono. Chiuso il telefono, però, Romano, vabbè. Mi sembra, però, insomma, una cosa veramente che non sta proprio al mondo, direi. Vabbè, ma non sta al mondo, ma potremmo mandare in onda queste frasi? Anzi, guardi, lei mi ha fatto talmente girare le scatole, sì, su questa, bravo, cosa. Bravo, ma è che lo chiamo quasi, quasi quasi lo chiamo, questo signore, questo professore, no? Che è anche abbastanza conosciuto nel suo ambiente, il vicepresidente del CNR. Intanto traffico. Eccoci, caro Parenzo, sul suo sito web, credo, Mara Carfagna non chiede scusa, come chiedeva prima la Mussolini, alla signora Bocchino, ma dice la sua sulla vicenda. L'unica persona a cui devo dare una spiegazione è la persona che sposerò, dice la Carfagna, ma sentiamola. Voi oggi da me volete altre risposte, mi chiedete altre cose, mi chiedete di confermare o di smentire quel gossip che ha alimentato le pagine dei giornali in questi giorni. Ebbene, Di queste cose io devo parlare ad una sola persona, anche se mi imbarazza molto perché riguarda la mia vita privata, le mie vicende personali, ma credo che di queste cose io debba parlare solo a Marco Mezzaroma, che è la persona che amo, l'unica persona che amo dal 2008, la persona che ho deciso di sposare nei prossimi mesi. Il resto, credetemi, sono chiacchiere al vento e che il vento se le porti. Ed è l'ultima volta che io parlo di mie vicende personali. Per il resto sarò sempre qui, puntuale, a rispondere di tutte le cose che faccio. Però devo dire la verità, il ministro Carfagna, sempre puntuta, non può dire che sono solo vicende personali, diciamo la verità. Beh, è legittimo che dica, cioè, no, siccome è una questione, voglio dire, la signora Bocchino ha tirato, dopo le indiscrezioni di Dago Spia, si è sentita punta nell'orgoglio e ha tirato fuori l'intervista. L'onorevole Bocchino ha ritenuto di dover chiederle scuse in modo televisivo e plateare in una trasmissione televisiva, e io non lo discuto. Noto che è tutto diventato un grande reality show, però sono personaggi pubblici e fanno quello che vogliono, cioè mettono in piazza quello che vogliono. Devo dire che c'è anche la questione dello spot del libro di Bocchino, cioè Bocchino va ieri da Fazio. Certo, no, ma non sto dicendo che è un male presentare il libro, sto dicendo che viene invitato Bocchino da Fazio con la scusa, tra virgolette, della presentazione del libro sulla destra del signor Bocchino. E insomma, dopo esce fuori questa roba qui. Ha colto l'occasione, siccome il libro è dedicato alla moglie. Sì. Siccome il libro è dedicato alla moglie, ha colto l'occasione per tirar fuori questa cosa. Ma è una sua scelta personale, cioè non ha nulla di politico, nulla. Sì, sì. È una vicenda personale. È legittimo che la signora Carfagna dica: io di questo, siccome il devo rendere conto solo a Mezzaroma, che non è Mezzaroma nel senso del numero della popolazione, ma è il cognome del marito, futuro marito. E quindi, vabbè, è legittimo. Cioè, secondo te è legittimo che lei a questo punto non dia spiegazioni pubbliche di questa vicenda? Poverina, adesso ho capito che bisogna sempre stare lì addosso. Allora, cosa hai fatto con Italo? Allora. Poverina, fatto suono. No, certo. Però lei deve anche capire che a questo punto si scatena. Evidentemente, chiaramente, una certa aspettativa e curiosità. Ma voglio dire, queste vicende sessuali sono radicalmente diverse. Ma non sono sessuali, da altre non sono vicende sessuali. Ma non siamo parlando vicende di amore, non lo so adesso. Queste vicende amorose o di lenzuola, sì. Per cui due persone che si sono incrociate anche a vicende politiche, perché esatto, si è sempre sono detto nettamente che diverse. Sono nettamente diverse tra loro, no? Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. Senti, però è tornato tra noi, lo ringraziamo naturalmente, il ministro Romano, eccoci qui. Dove era finito, ministro? Il contatto telefonico si era interrotto. Il telefonino l'aveva spento improvvisamente, vabbè, non fa niente. Senta, ma come ha preso? Spento il telefono, si era interrotto il contatto, altrimenti non mi sarei ricollegato, ovviamente. No, è certo, è chiaro, chiaro. E la ringraziamo per questo. Naturalmente, senta, ma come ha preso lei questo rinvio fino al 14 aprile della decisione sulla sua vicenda giudiziaria? Sì. Ma guardi, come lei sa, lo sanno un po' tutti, c'è una richiesta di archiviazione pendente su un procedimento che dura da tanti anni. Sì. Legittimamente il giudice per le indagini preliminari, prima di prendere una decisione sull'archiviazione, ha chiamato le parti, sì, in camera di consiglio, dove non occorre nemmeno la presenza del sottoscritto, ovviamente, e ha concordato con l'avvocato un'altra data per impedimento dell'avvocato stesso, cose di questo genere. Per cui non ha nessuna preoccupazione su questo slittamento della decisione, no? E perché dovrei averlo? No, però, che ne so. Scusi, ho un dubbio. Che dubbio? Il ministro Romano ha sempre detto di non aver mai ricevuto nessuna notificazione di garanzia, nessun avviso di garanzia. Ecco, lei è indagato formalmente o no, ministro? Allora, su questo procedimento no, io non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. E invece sull'altro? Io ho avuto un procedimento nel 2003 dove ebbi l'avviso di garanzia, sì, poi fu chiuso, sì, fu riaperto, nella riapertura non mi fu notificato e comunque adesso è diventata notizia pubblica il fatto che ci sia stato questo procedimento che sia durato oltre 6 anni e adesso il GIP sta decidendo sulla richiesta del PM, il quale ha ritenuto non ci siano elementi, sì, per poter andare in giudizio. Senta, invece sull'altro procedimento lei ha indagato, quello su che era, non mi ricordo esattamente l'imputazione. Quello è un altro procedimento invece che riguarda un episodio dove chi inizialmente mi accusava ha dichiarato di non conoscermi. E comunque, voglio dire, è una questione anche quella abbastanza vecchia. No, ma ho capito, al di là di questo, lei su quello è indagato formalmente? Non perché per me non cambia nulla, ma è una curiosità. No, io la risposta gliela potrei dare anche tecnicamente, poiché immagino che sia stato indagato, perché poiché sono trascorsi ormai tutti i termini in cui io potrei essere ancora indagato per procedimento, se lo fosse ancora oggi sarebbe abbastanza grave. Dunque ma diciamo così? No, no, dunque lei è indagato, insomma, in quel procedimento. No, io le ho dato la risposta. Cioè noi non siamo tecnici, però ci deve far capire. E io glielo sto spiegando. Me lo spieghi. Nel nostro paese la possibilità di indagare una persona ha dei tempi. Sì. Finiti quei tempi quella persona non può essere più indagata, ovviamente. E dunque? Se lo è, non è grave, è grave, immagino, no? Cioè lei sta dicendo che su quell'altro procedimento, se lei fosse indagato, sarebbe grave. Su quell'altro procedimento, se ci fossero ancora oggi delle indagini dopo che i tempi sono spirati, sarebbe grave. Ah no, certo, però lei formalmente se non sono spirati i termini, allora possono continuare a farlo, che so, se i termini durano 10 anni possono ancora continuare a farlo 10 anni, ma vabbè. Senta, ma la cosa di Napolitano come l'ha presa lei? Cioè questo voglio capire. Cioè io l'impressione che ho avuto è che non mi si può. Non mi è dispiaciuto, però ho colto l'invito a fare presto. Cioè lei è dispiaciuto con Napolitano? No, mi sono dispiaciuto della nota, però ne ho colto, perché ovviamente mi ha riguardato personalmente, però ne ho colto l'invito a fare presto. Non ho nessuna intenzione di fare alcuna polemica con il Colle e col capo dello Stato, al quale va tutto il mio rispetto e la mia deferenza. È vero, però è anche abbastanza anomala come cosa. Cioè uno nomina un ministro e subito dopo fa una nota in cui dice deve chiarire la sua posizione processuale, la sua posizione giudiziaria. Cioè, non è bellissimo, no? No, non ha detto questo il capo dello Stato. Vabbè, adesso io ho riassunto. Su, ha invitato i magistrati a chiarire il preso. Sì, certo. Perché io non ho nulla da chiarire. Ho capito, però non l'ha vista come però una cosa. Non ha capito perché mi rifà sempre la stessa domanda. No! Dire che non ha capito. No, se non ha capito io lo spiego. Io non ho nulla spiego. Da chiarire, sì. Per la semplice ragione che non sono né rinviato a giudizio, né sotto processo, né mai condannato. Sono un incensurato, sì. Nel quale capo pende una richiesta di archiviazione dopo 8 anni. Lei sa cosa significa archiviazione? Sì, so benissimo. Il caso non può essere portato a giudizio. Punto a capo. Adesso lei lo vuole spiegato un'altra volta? Va bene così allora. No, perfetto. Va benissimo, ministro Romano. Grazie, però se non ci fosse nulla da chiarire, il Presidente della Repubblica non avrebbe fatto quella nota. Perché l'ha fatta allora? Ma io le sto dicendo che questa domanda lei non la può porre a me. Io leggo un invito a fare presto a chi deve chiarire che non sono io. Altre volte non è successo con altri ministri, come mai? Ma santa pace, lei cosa vuole che io le dica? È vero che non è successo con altri ministri o no? Non lo so, non l'ho vista la statistica. Beh, glielo dico io. Faccia una cosa, vada al ritroso, la veda, faccia la considerazione e la dica. No, lo dico, l'ho fatta la statistica, con altri ministri in situazioni anche peggiori delle sue. Ma lei perché la domanda la fa al soggetto che non può rispondere? Perché non avrebbe come rispondere, non ha argomenti da offrire, se non quelli che io le ho già offerti. Sì, no, per carità, volevo sapere il suo stato d'animo, è questa la cosa. Il mio stato d'animo è quello che io le sto dimostrando. Lei mi ha chiamato, io ho anche scherzato con lei, facendo il mio lavoro da Ministro dell'Agricoltura, sono disposto a rispondere alle domande anche ostiche che lei mi ha fatto. Quale stato d'animo migliore potrebbe incontrare? No, ma lo stato d'animo nei confronti del Presidente della Repubblica, in questo senso volevo dire. Io l'ho già detto. Sì, massimo rispetto. Deferenza e rispetto. Va bene, no, dunque non si sente, diciamo, un ministro. Sempre ho capito, poi finisce che non ha capito. No, non ci avrebbe rispiegato le stesse cose. No, ma nel senso che non si sente un ministro dimezzato, in questo senso, no? Immagino, no? No, ma questo me l'ha già detto all'inizio della trasmissione. Lo so, ma lo ripeto, ogni tanto. La trasmissione le ho detto che da questo punto di vista ho attraversato tanti di quei deserti senza acqua che non vedo dove sta il problema. Ma Parenzo, è vero che il ministro Romano si è paragonato a Cavour, o sbaglio? Mi risulta questo, addirittura a Cavour, perché anche Cavour ebbe l'agricoltura, non è vero. No? Ho detto che questo è un ministero che fa sentire il peso della responsabilità, perché è stato un ministero guidato e governato da illustri personaggi, primo fra tutti Cavour. Ah, dunque, da Cavour a Romano. Sento il peso di Cavour. Cose che non ho detto, no, giusto? Sento il peso di Cavour, giusto? Questa anche è l'interpretazione. Perché rispetto a Cavour, io sto da un'altra parte d'Italia, sono un po' più sfilato, un po' più alto, parlo un dialetto diverso. Insomma, abbiamo tante cose che non ci legano. Questo lo dice pure Pionati, che è un siciliano di voti al nord e ne piglia pochi, insomma, non può rappresentare tutti i responsabili. Vedremo. Lui dice che non può rappresentare tutti i responsabili. Questo facciamolo dire agli elettori, no? No, certo, no, per carità. Però questo Pionati è con lei. Ogni tanto punge, vabbè, ma è giù, una concorrenza all'interno dei responsabili, ci vuole concorrenza, no? O no? Ci vuole anche... Non funge. No. Vabbè, sta mangiando Romano, che io sento delle forchette, cose, bicchieri. Non posso dove c'è confusione. Ma c'è forchette, cose, sta mangiando, no? No, io non sto mangiando. No, ma non è, no, ma non è un reato. Non è un reato, sto parlando con lei. No, ma per carità, ma... No, non è assolutamente un reato mangiare. Non è un reato mangiare. Assolutamente no. Assolutamente ma poiché no. Sto parlando con lei, non sto mangiando. Benissimo, no, mangiando, diciamo, stava magari avvicinando alla cena. Senta, l'ultima domanda è questa. Secondo lei i responsabili quanti sottosegretari dovrebbero avere? Ma secondo me quest'area di responsabilità va coinvolta nel governo. Sì. Non è un problema di quantità, è un problema di qualità, cioè la loro partecipazione alla piattaforma politica e quindi anche all'organigramma di governo. Sì, e dunque? E dunque quello che le ho risposto. No, dunque nel ma senso. Perché le fa sempre finta di non capire? No, perché poi alla fine poi tutto. Lo spiego di nuovo. No, perché tutto si traduce sempre in numeri, Romano. Adesso per carità, la politica è fatta anche di questo, non è che stiamo. Questo è un esercizio che a me non piace. Ma Pionati, a lei lo farebbe sottosegretario? Di politica e poco di numeri. Pionati lo farebbe sottosegretario lei? Come no? È una persona che può fare questo ed altro. Questo e altro. Tutti responsabili. Dimmi. Tu sai, Cruciani, che nella grande scuola democristiana. Sì. E loro sono abilissimi, cioè mai dire anche di un loro nemico, mai direbbero no, non deve fare venire una persona che merita rispetto, stiamo valutando, cioè questa è la formula che genere sono grandiosi i democristiani, grandiosi. Per carità, assolutamente. Ministro, la lasciamo, grazie. Grazie a lei, buona serata. Saluti. 20:30. La lascio anch'io direttorissimo. Caro Parenzo, ci sentiamo domani, eh? Sì, noi abbiamo piacere. Ancora mezz'ora con gli ascoltatori. Alan dalla provincia vengo di Monza. Volentieri, perché è bella la sua trasmissione. Nino dalla provincia di Cuneo. Giacomo dalla provincia di Brescia. Paolo dalla provincia di Rovigo. Ciao Davide, ci sentiamo domani con la Zanzara. Voi siete sempre qui, restate. Borsa. Qui alle 20:34, 800 24 00 24, Alan, provincia di Monza, buonasera. Pronto, buonasera dottor Cruciani, buonasera a lei. Dica. Allora io intervenivo perché volevo agganciarmi al discorso tradimento, Garfagna, Bocchino. Io penso che fondamentalmente la Garfagna abbia ragione di non voler parlare ulteriormente della vicenda, anche perché penso che queste vicende qua colpiscano sì, ma soprattutto le persone interessate. Vedi anche altri vari casi tipo Rudi di Berlusconi, Marrazzo e quant'altro, che essendo personaggi pubblici diventano facili bersaglio per strumentalizzazioni da questa o da quell'altra parte. Volevo solo agganciarmi a questo e proprio per questo, se mi è permesso, sì, volevo invitare i soggetti coinvolti in questa vicenda, che magari potrebbero essere interessati, a una conferenza di cui ho davanti il tagliandino, l'opuscolo. Sì. Che conferenza è? Dal comune di Senago, in provincia di Milano. La conferenza è Tradimento, Rancore e Perdono. Forse queste persone sarebbero interessate a intervenire, visto che da quello che posso leggere e capire sarebbe un tratterebbero l'argomento sotto il punto di vista psicologico e morale. Quindi un invito a tutti coloro che sono interessati alla vicenda e chissà quanti altri forse nel nostro Parlamento e non potrebbero essere interessati. Diciamo che è un argomento che davvero non riguarda solo il Parlamento, per cui caro sì, Alan, quello sì. Però per insomma signora Alan, mandi questo invito con una fotocopia fax al Ministero delle Ma in realtà no, il Ministero per le Opportunità no, perché insomma più che altro alla segreteria del dottore Bocchino e della Sì, perché fondamentalmente presumo che anche loro in questo momento si trovino in un imbarazzo e non capisco neanche perché il dottor Bocchino si sia dovuto scusare così pubblicamente quando poteva benissimo prendere la moglie, parlare a quattro occhi e... Dal momento in cui la moglie ha fatto un'uscita pubblica è evidente che poi bisogna comunque restare almeno sullo stesso piano. Il fatto che loro siano personaggi pubblici li rendono più facili bersaglio a queste cose. Grazie Paolo da Siracusa, buonasera Paolo. Sì, buonasera Cruciani, mi dispiace che sia andato via Parenzo perché volevo salutare anche lui. Le dico velocemente che io vi considero come gli amici che incontro prima di rientrare a casa, con il quale scambiamo magari idee e opinioni su quanto è successo durante il giorno. Sì. E a tal proposito le telefonavo perché volevo discutere un attimino della situazione di Lampedusa. Sì. Lampedusa, che c'è da discutere? È sotto gli occhi di tutti? È sotto gli occhi di tutti. Io, guardi, le devo dire che ho un collega di lavoro che è una settimana che non può andare a lavorare, tra parentesi, se non va a lavorare uno di quelli che non porta il pane a casa, perché praticamente teme per l'incolumità della famiglia. Ma dove? A Lampedusa questo? A Lampedusa. A Lampedusa ci sono 2000 abitanti, del quale più della metà sono anziani, dei quali più della metà sono anziani, e dopodiché praticamente ci sono più di 4500 migranti. Sì, oggi c'è stata, come avete sentito, anche una rivolta contro gli sbarchi, con i pescatori che hanno bloccato l'accesso al porto. Secondo il prefetto, tutti andranno via da mercoledì, saranno impiegate 6 navi per svuotare l'isola. Queste sono le notizie di oggi. Sì, Cruciani, lei capisce che questo è un atto di carità che ha un prezzo troppo elevato. Vabbè. Perché stiamo parlando praticamente di persone che, tra parentesi, non sono neanche rifugiati di guerra, perché vengono dalla Tunisia, di conseguenza sono praticamente persone che non dovrebbero essere autorizzate ad entrare qui. Io la vedo così. Sì, ma qui non siamo, non è che ci vuole l'autorizzazione formale, queste persone arrivano e vanno gestite. A tal proposito, un signore leghista che si chiama Stiffoni, un senatore leghista, caro Paolo, se n'è uscito in questo modo ieri, dopo le frasi del governatore della Sicilia Lombardo, no? Vadano anche in Valpadania. Caro Lombardo, le tendopoli stanno meglio in Sicilia perché il clima è più consono e più simile a quello dei magrebini che arrivano. Non vorrei mai che l'ONU si mettesse di traverso se facessimo delle tendopoli da noi per il clima, perché magari poverini prendono freddo al pancino. Questo ha detto Pier Giorgio Stiffoni. Diciamo, scrivermi con un no comment. No, no, ma adesso lei non è il caso che parli come politici con un no comment. Paolo può anche dire la sua tranquillamente. Ma guardi, la mia diciamo è questa. Arrivato a questo punto, la situazione è insostenibile. È un prezzo che non si può pagare. Non è possibile che una persona debba restare a casa per guardarsi la famiglia. Cioè siamo arrivati a questo punto, e la situazione è che poi ad un certo punto, per quanto caritatevole uno possa essere, poi la situazione diventa insostenibile. Va bene Paolo, grazie. Nino, provincia di Cuneo, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, mi dispiace che non c'è Parenzo, ho due appunti. Dica. La prima, mi meraviglio che voi vi meravigliate di quello che ha detto il ministro Romano. A proposito di che? Del suo anti-berlusconismo di una volta? No, di quello che lui ha contribuito con il suo gruppo a mantenere in vita un governo. No, veramente di quello non ci siamo stupiti, gli abbiamo chiesto, alcune cose. Lui ha fatto quello che altri dicevano di dover fare, il governo di solidarietà, il governo di responsabilità, eccetera. Quindi niente di nuovo da questo punto di vista. Il secondo appunto, mi dispiace che non c'è Parenzo, perché qualche sera fa avete fatto trasmissione sulla mafia in Lombardia. No, la trasmissione no, abbiamo affrontato il tema. Esatto. E Parenzo, dopo le frasi di Vendola e di Formigoni. Esatto. Allora? E Parenzo diceva che la cupola della 'Ndrangheta è a Milano perché un magistrato l'ha detto e perché il Corriere della Sera l'ha detto. Detto da un giornalista, questo mi ha lasciato di sasso. Cioè, che se un giornale dice una cosa, cioè che un giornalista l'ha detto il giornale, il Corriere della Sera, o l'ha detto un magistrato, è grave. perché un giornale esprime delle opinioni di chi scrive, cioè del notista, del giornalista che scrive, e il giudice esprime un parere in base agli elementi che ha. E se un giudice ha detto quello, che la cupola dell''Ndrangheta è a Milano, ha detto la più grossa fesseria della sua vita. Vabbè, adesso lei mette in discussione le convinzioni di un giudice. Io sono originario della Calabria, sì, di Reggio Calabria, e le dico che la cupola della 'Ndrangheta non si muove dalla Calabria. Va bene. La discussione non era sulla cupola della 'Ndrangheta, era sul fatto che un giudice aveva spiegato quant'era ramificata la 'Ndrangheta dal sud. Da qui una frase del governatore Vendola, che poi si è parzialmente corretto nel weekend, il quale ha detto la Lombardia è la regione più mafiosa d'Italia. Pietro da Campobasso, buonasera. Salve dottore. Dica. Io intervengo a proposito dell'onorevole Romano. Sì. Che si è vantato di aver attraversato tanti deserti senza acqua, ma credo con una buona riserva di vino. Perché quando lui afferma che gli imbecilli non cambiano mai idea, sì, piuttosto si può riferire alla frase di Rotondi, il quale affermava molto più esattamente che le affermazioni politiche valgono solo nel momento in cui vengono dette. Ma a prescindere da questo, volevo fare riferimento alla riserva di Napolitano per la sua nomina. In Italia esiste un meccanismo per quanto riguarda gli impiegati di Stato, vale a dire da quelli titolari, i funzionari, persino i precari, i supplenti, devono sottoscrivere una dichiarazione che non hanno subito condanne penali, né provvedimenti disciplinari, né di avere procedimenti penali in corso, eccetera, eccetera. E parliamo di precari. Ora, non c'è da meravigliarsi se poi il Presidente della Repubblica giustamente fa una riserva mentale, sia pure implicita, non del tutto esplicita, sulla nomina di questo onorevole. Sì, Pietro, non vedo quale sia il collegamento che spesso viene reiterato dagli ascoltatori, siccome per entrare in un posto pubblico e addirittura, come dice lei, avere un contratto a tempo determinato, bisogna essere immacolati, eccetera. Uno invece che è indagato può fare il ministro. Sono due situazioni completamente diverse, che non hanno niente a che fare, che non si possono mescolare, che riguardano, ripeto, uno un posto di per sé temporaneo come quello del ministro e l'altro invece un posto che nel caso di un contratto a tempo indeterminato è appunto permanente. Andiamo a Padova. Nicola, buonasera. Buonasera. Dica. Sì. Dunque, parlando di Fazio, Fabio Fazio, che tempo che fa? Io non guardo molto la TV, ma mi è capitato di vederla domenica sera con la Gelmini 2 settimane fa e con Gasparri. Sì, allora? Ieri. Ieri non c'era Gasparri, credo. Comunque. Era sabato, vabbè. Forse sabato. Niente, Fazio mi ha infastidito perché ammanta continuamente, o almeno in queste due interviste, di una pesantezza, pochissima simpatia e poi anche di una certa piuttosto ficcante con loro nelle domande, poi le domande potevano essere più o meno motivate, certamente si può criticare un governo, certamente si può fare sempre meglio, però mi è sembrato molto molto di parte e io insomma lo stimavo qualche anno fa, adesso ultimamente forse gli hanno imposto di avere delle persone. Persone di essere cose. Più bipartisan e questa insomma, è la mia impressione. Ecco. Non ho capito niente, è bipartisan o è... No, siccome fino a prima mi pare che non ci fosse, che lui non invitasse esponenti di governo o comunque persone, come dire, di destra o comunque... Ma non è vero! Che non abbia molta simpatia per questo allora... tipo di... E forse ora... cioè li deve invitare, li invita, però quando fa l'intervista mi sembra che voglia far passare l'interlocutore e l'intervista nel suo insieme, come atmosfera generale, in modo da non aiutare o da non come dire. No, no, non ho capito, Nicola. Cioè, lei dice che deve invitare per forza i politici di centrodestra e quando li invita li vuole ridicolizzare, forse no, questo. Lasciamo perdere quel discorso che forse siccome non ha mai invitato, mi sembra. Non, ma non è così, Nicola. Mi sono sbagliato. Allora non è mandiamo, così. Mandiamo il traffico che è meglio. Traffico. E 48 800 24 00 24 Giovanni da Roma, credo. Giovanni, buonasera. Buonasera, Cusani. Io volevo semplicemente far notare come in modo subdolo le televisioni di Mediaset cercano di così di far capire di diciamo smitizzare la storia dell'anti-berlusconismo di questi giorni. In particolare mi riferisco alla trasmissione Striscia la notizia. Ma che è successo, Giovanni? Non ho capito. L'altra sera hanno fatto vedere alcuni pezzetti del programma di Fazio per far notare come la Lakenbach sta lì senza far nulla, è soltanto una donna immagine, questo come per dire. Non lo so, non ho visto il servizio. Lì, mi pare proprio strano. Sì, ma non ho visto il servizio, Giovanni. L'ho visto io. Non lo so, ho capito, ma non l'ho visto, me lo faccio vedere a me. Vediamo quello che è successo a Forum, no? Dove c'è la figurante detto dalla stessa figurante che aveva una traccia di quello che doveva dire, che praticamente magnificava Berlusconi nel terremoto. Cioè trovo questo metodo veramente veramente puerile da un lato, però dall'altro lato molto efficace, perché c'è gente che vede soltanto poche trasmissioni televisive e ha poca capacità di critica. Va bene, Giovanni, grazie. Andiamo a Roma. Renato, buonasera. Dottor Cruciani, salve. Dica. Le devo dare atto. Avevo preannunciato un intervento contro di lei. Sì. E mi è stata data la linea. È stata data la linea. Vabbè, guardi che succede quasi sempre, Renato. Non si deve stupire affatto. No, io l'ho proprio esplicitato. Ho detto, voglio dire qualcosa contro il dottor Cruciani. Prego. Poi ho spiegato perché, eccetera. Io l'ascolto anche insomma con una certa attenzione molte volte, ma certe volte dice delle cose che a me lasciano sconcertato, cioè sono una persona di una certa intelligenza e penso che lei sia una persona di una certa intelligenza, rimango stupito di certe sue affermazioni. Per esempio? Lei non vede nesso tra la circostanza che tutti i pubblici concorsi d'Italia sì. impongono che il candidato di un concorso non debba avere questioni giudiziarie neanche ipoteticamente aperte e addirittura chi governa lo Stato può avere precedenti penali gravissimi. Per lei è si calmi, si calmi. Ma facetti male. Si calmi, non ho detto questo. Non c'è nesso, non c'è alcun nesso. Sono cose totalmente differenti. Assolutamente sì. Un pubblico dovrebbe essere molto più seria la selezione. Sì, scusi un attimo, Renato. Il pubblico concorso di solito porta ad un'assunzione a tempo indeterminato nello Stato. Se uno è indagato in qualcosa, credo che possa comunque partecipare. Naturalmente non può partecipare nel caso in cui. In tutti i pubblici concorsi, glielo dico per esperienza, sì, perché faccio un certo. Se uno è indagato per diffamazione, credo che possa partecipare a un concorso. Insomma, se uno è indagato per reati contro lo Stato, sicuramente no. Contro lo Stato può darsi, bisogna vedere a che punto è l'indagine, ma se non stiamo lì. Ma senza dubbio nessun condannato. Ma condannato non c'è dubbio. Comunque, parlamentari e ministri possono fare sì, parlamentari e le ripeto, Renato, le ripeto che le due cose non c'entrano assolutamente nulla, perché sono due incarichi completamente diversi l'uno dall'altro. Il primo è un incarico nella pubblica amministrazione permanente o semipermanente, si tratta di un'assunzione a tempo indeterminato, una cosa che non ha nulla a che vedere con una nomina ad un ufficio. parlando ovviamente dal punto di vista formale, poi dal punto di vista politico possiamo discutere se è opportuno o non è opportuno, ma dal punto di vista formale le due cose non sono paragonabili, perché per l'accesso a un pubblico ufficio in maniera permanente è evidentemente richiesto il fatto che tu non debba essere un delinquente, tra virgolette, no? Per diventare ministro, essendo una cosa di per sé temporanea e di nomina politica, è evidente che la discrezionalità è maggiore, soprattutto che non è necessario, se non per una questione di opportunità politica, il fatto che la tua fedina penale sia completamente intonsa. Mi sembra assolutamente normale, cioè poi una cosa è l'opportunità politica, ma la diversità delle due situazioni è talmente banale che non c'è nemmeno bisogno di spiegarla, Renato. Poi ripeto, l'opportunità politica è un'altra, l'opportunità politica vorrebbe che magari in caso di gravi accuse eccetera eccetera, o comunque di condanne, io parlo sempre di condanne non di gravi accuse, non si debba, come dire, dar vita ad una, o comunque non si possa nominare una persona. Mi senti o non mi senti? Sì, sì, la sento. Oh, allora, voglio dire soltanto questo. Allora, per una collettività, qual è un valore che necessita di una maggiore tutela? Quella che un dipendente del comune, di un municipio, di un comune di Canicattì abbia precedenti, oppure di Roma abbia qualche precedente penale, o quella che addirittura un ministro, uno che governa la collettività tutta. Renato, ma lei si è chiesto perché esiste una norma, perché esiste una norma che riguarda la pubblica amministrazione e non esiste una norma che riguarda una nomina politica? Si ma è io chiesto? Non parlo di norme. No, ma si è chiesto? Beh, allora o ci sono norme o non ci sono norme. Io sto parlando di non del fatto che lei addirittura affermi che siano due cose non comparabili. Siamo d'accordo? Assolutamente, sono due cose totalmente diverse. Sono due concetti, sono due situazioni diverse, certo. No, molto diverse, ma non c'è. Il parlamentare ha i voti. Ma non solo ai voti, c'è anche la responsabilità politica quando uno nomina qualcuno, e se nomina qualcuno di sbagliato non risponde politicamente. Dopodiché in teoria è tutto trasparente, sappiamo benissimo, per esempio nel caso specifico, le accuse che sono rivolte all'onorevole Romano, il tipo di accuse che sono rivolte al ministro dell'agricoltura, le conosciamo, se vogliamo entriamo anche nei dettagli, punto e basta, cioè questa è la situazione. In Italia questo non accade. Ma come non accade? Accade. Questi messaggi. Quali sono i messaggi? Il messaggio che sono due cose totalmente diverse. Certo, per me è così. Per me è così. Ministro, una cosa è il ministro che certo, no, passa questo messaggio. Ma non è che il messaggio, è la realtà, certo. Non è il messaggio, è la realtà dei fatti, sono due situazioni diverse, non è un messaggio, non è interpretazione sì, mia. Capito. Quasi un discorso di accettazione. E ho capito, lei non lo accetta, io lo accetto perché comunque. Certo che lo accetto, lo accetto. Quello che voglio contestare. No, ma lo accetto, caro Renato, io lo accetto non in virtù di un principio generale, lo accetto semplicemente perché il signor Romano, nello specifico, con cui pure non sono andato molto d'accordo durante l'intervista. Il signor Romano non ha nemmeno un rinvio a giudizio, già si potrebbe discutere sul rinvio a giudizio, per me si può discutere anche su una condanna in primo grado, ma lasciamo perdere, non è nemmeno rinviato a giudizio, cioè questa è la differenza, cioè non è ben, altrimenti deleghiamo la scelta dei candidati o di chi può fare il ministro al fatto che un giudice può indagare una persona e allora è finita. Ma devo chiudere perché sente la musica. Daniel dalla provincia di Catanzaro, velocemente, grazie. Sì, salve Cruciani, no, in questi casi ci vorrebbe Parenzo, perché effettivamente sono d'accordo con l'ascoltatore. Cioè, bene, ma so che la mia posizione è impopolare, ma non è un problema. No, va bene, però io capisco il discorso della norma, a questo punto bisognerebbe approfondirla e capire se effettivamente basta essere indagati. Se basta essere indagati è un po' pericoloso, perché chiaramente, però un ministro gestisce i soldi di tutta l'Italia. Vabbè, allora. Quindi è per me un problema. Comunque, vabbè, Dani, allora riprendiamo domani con gli altri argomenti che volevo affrontare. Ci sentiamo con la Zanzara alle 18:30. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.